Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ho sentito, visto notizie giornalistiche che attribuivano a me e a esponenti del Popolo della Libertà l'intenzione di tornare al nome Forza Italia. Lo escludo, non si va mai all'indietro. Il Popolo della Libertà produce un acronimo, PDL, molto spesso addirittura alcuni lo citano al femminile, la PDL, la Popolo della Libertà, e soprattutto gli acronimi non commuovono, non danno emozioni. Quindi stiamo cercando un nome che non sia riducibile ad un acronimo e che possa dare esso stesso una emozione e abbia un significato che faccia capire qual è la direzione politica, quali sono i valori, quali sono i progetti che noi vorremmo realizzare con questo unico grande partito dei moderati. Caro Parenzo! Eccoci qua. L'ho messo apposta l'inno di Forza Italia per attirarmi l'odio di tutti quelli che pensano che io sia berlusconiano. A chi se ne frega? Ma mi mandano 100 messaggi, ladro, venduto, ladro. Fai anche le trasmissioni su Mediaset, capisci? E dunque io apposta metto vecchio inno di Forza Italia, che ormai non è più nemmeno una questione di appartenenza, è una questione proprio di storia. È bellissimo. Anche Rutelli lo ha detto, tra l'altro, il nome Forza Italia. Ha detto recentemente in un fuori onda, cos'hai che ti sento con un ritorno stranissimo, come sei collegato? No, io ti sento benissimo. Io sento un ritorno strano. Comunque, il nome Forza Italia. Solito torpedone per Siena. Il nome Forza Italia è un nome molto bello, ha detto Rutelli in un fuori onda. D'altra parte, molti del PDL sono nostalgici. Ce lo disse anche, come si chiama, Nunzia De Girolamo qualche giorno fa. Sì. Bene, mi piacerebbe tornare a Forza Italia. Ma è tornata a parlare Scajola. No. Scajola. Della casa? No, della casa no. No. Dice, ma cosa ha fatto della casa poi? Non lo so come è finita la storia della casa. Se scopro chi mi ha dato i soldi. Non ha scoperto ancora, evidentemente. Però ci sono sempre voci sempre più insistenti di un ritorno di Scajola al partito, proprio all'organizzazione, a tenere in pugno la situazione. Nuovo simbolo, dice Scajola. Nuovo simbolo, via. Credo che sia utile avere un nuovo simbolo. Credo che sia utile, già che si deve fare, Fabrizio, Angelino e Renato, facciamolo il più bello possibile e il più vicino possibile al pathos che ci faceva venire quello di Forza Italia, che colpiva direttamente, anche perché aveva avuto l'intelligenza di collegare Berlusconi, Forza Italia, il tricolore. So dove possano portare fiumi di parole che si scambiano quotidianamente attraverso anche i messaggi SMS, come sai, no? Vero, caro Parenzo? Io e te ci scambiamo molti messaggi SMS. Parenzo? Non mi senti, vabbè. Ragazzi, mi volete dire quando uno è in linea o quando uno non è in linea? Avvertimento per chi è dall'altra parte del vetro. Partiamo con qui naturalmente mi hanno perso tutto, per questo volevo Telese. Sentiamo prima Francesco da Cagliari, allora via, Francesco da Cagliari. Salve, auguri. Prego, dica. Volevo cogliere l'occasione per commentare il discorso di Berlusconi. L'anno scorso ho avuto l'onore di commentare Napolitano, proprio su Radio 24, il discorso di fine anno. Sì, qui no, questo non è discorso di fine anno, Francesco. Sì. Dica. Discorso di fine carriera. No, mi siete venuti in mente con Parenzo, chiamare l'ambulanza ogni tanto, perché quando comincia a parlare di sé si resta veramente allibiti. Non si capisce a che cosa si sta assistendo, cosa c'è di istituzionale. io penso che quando sto parlando il mio ma a cosa si riferisce lei esattamente nella conferenza stampa di oggi? A cosa si riferisce nella conferenza stampa di oggi? Mi scusi Francesco, che cosa esattamente? Cioè Berlusconi parla di sé e della sua vita da 15 anni, non so se è chiara questa cosa. E non pensa che un po' ci siamo... vabbè, quello lo decidono gli elettori, se uno si stanca oppure no, sono gli elettori che lo decidono. Quando vanno sa come funziona la democrazia, Parenzo tu lo sai come funziona la democrazia, no? C'è delle regole, delle regole, uno va, uno c'è una matita ogni tanto, ogni tanto. Anni, beh, anche meno di 4 anni ci sono le elezioni, varie elezioni, eccetera, sì. Anche ogni anno un foglio che ti danno con dei simbolini, anche molto facile, basta metterci una croce sopra. Non è così semplice. Ma come non è così semplice? È molto semplice mandare via Berlusconi, Francesco. Io nel 2008, per esempio, ho fatto il non voto attivo. Sono andato a votare. Che ha fatto? Scusi, il non voto attivo. E quella è e quelli sono affari suoi. Scusi, voleva mandare via Berlusconi perché non ha votato l'opposizione. Scusi. No, scusi, è perché appunto è anticostituzionale, perché io vado a votare secondo norme costituzionali e l'articolo 48 mi dice di andare ad esercitare il mio diritto al voto come dovere civico. Vabbè, Francesco, adesso non cominciamo civico, a dire, chiamo davvero l'ambulanza, non cominciamo a dire follie, abbia pazienza. Ma non si può ogni volta che si parla di costituzione chiamare l'ambulanza. Beh, non è che lei sta parlando di costituzione, lei sta dicendo che il voto è incostituzionale, abbia pazienza, andare a votare è incostituzionale. Ma non è questione di essere incostituzionale, che se c'è una consapevolezza civica, una persona non va a votare chi conosce, chi gli è più simpatico, chi conviene, ma a volte dovrebbe andare, soprattutto per il Parlamento, persone dove realmente Parenzo, la moralità dovrebbe averlo preso. Dove si trova? Signor Francesco, bisogna prendere la nave, non si può lasciare a piedi, sono sull'isola. Sull'isola, Cagliari, no, ma un po' di coordinate, perché altrimenti madre. Un po' di coordinate, così diamo indicazioni precise. Ma andiamo al nucleo sommozzatorio, Francesco, abbia pazienza. Problema, però non è possibile che la costruzione partita, mi dispiace, è partita. Ormai è partita, dovrebbe avere una sua sacralità, Lo diciamo agli infermieri. Non si preoccupi. Ma no, c'era anche l'articolo sul fatto dell'altro giorno. Sì, c'è l'articolo. C'è l'articolo. C'è l'articolo sul fatto. Certo, c'è l'articolo. Ma il principio che in democrazia la maggioranza vince. Non è un principio democratico. No, non è un principio democratico. No, lo dica. Guardi che questo qua gli infermieri ne tengono conto poi. Se lei continua. Non si preoccupi. In una democrazia vera dovrebbero tante lucine sopra avere delle istanze di chi diventa minoranza. Infermieri, prendete nota per i medici. Veloci però, veloci. La democrazia non è fare quello che si vuole in nome della maggioranza. Non si preoccupi, ma certo. Lei ha ragione, si cambia, sia sereno un attimo, arrivano subito. Ora a me non mi arrabbio neanche più, però. Abbiamo iniziato così, 18:39, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Abbiamo iniziato, diciamo, all'improvviso, in questo modo, senza nessuna preparazione. Ma d'altra parte le ambulanze non è che scattano così, scattano quando uno dice certe cose, certo, fiumi di parole, ti stavo dicendo Parenzo, fiumi di parole che sono le stesse parole che ognuno di noi scambia con altre persone quotidianamente attraverso messaggi SMS, per esempio. E te ci scambiamo molti messaggi, non solo molti messaggi SMS, come due amanti. Come due. Potremmo fare lo you and me. Adesso lo tolgo da quello di mia moglie e lo faccio con te. Lo you and me. Beh, no, adesso non esageriamo. Direi di sentire. Ah, il nostro amico Telese. Beh, è diventato peggio di Gian Burrasca durante le conferenze stampa. Durante la conferenza stampa di Berlusconi, sì. Ormai si è specializzato anche in questa cosa. Berlusconi a un certo punto ha detto: se non ci fossi io, voi non esistereste. Che era la vecchia teoria, no? Una volta che Berlusconi, diciamo, chiude la sua carriera politica, molte persone impegnate nel mondo degli intellettuali, nel mondo della cultura, nel mondo della politica, smetterebbero di avere ragione di esistere. Perché? Perché fanno dell'anti-berlusconismo la loro bandiera. È una teoria che ha anche una sua ragione di esistere, secondo me. Però forse Telese, insomma. No, Telese esiste da prima di Berlusconi, cioè indipendentemente da Berlusconi. Anzi, prima era con Berlusconi. O comunque lavorava sul giornale. Con Berlusconi è esagerato, a dire per carità. Lui, se fosse qui e non è qui, come sapete, mi bacchetterebbe in maniera. Sì, ma infatti ha sempre scritto quello che pensava, non è che quando uno. Vabbè, adesso non addentriamoci su questo, in questo terreno, in questa selva oscura. Anche Travaglio ha scritto per il giornale, no? Berlusconi Telese, via. Buongiorno Presidente, lei sa che la seguiamo con una particolare attenzione, sì, anche con affetto, con simpatia, slancio. Siamo i principali esegeti dell'operato del suo governo. Perché se non ci fossi io non esisteresti, magari. Editorialmente. Sì, facciamo le domande. Parte seconda. Oltre alle realizzazioni del suo governo che lei ha elencato in estrema sintesi, ce n'è anche altre. Il ministro Scajola ha sistemato la casa a sua insaputa, l'ex ministro Lunardi ha sistemato l'azienda e ha avuto il buon cuore di ammetterlo, il ministro Brambilla ha sistemato il compagno all'ACI, il ministro Bertolaso ha sistemato moglie e cognato, non poteva non farli lavorare, il ministro Bondi ha avuto la simpatia di sistemare il figliastro e l'ex marito con una consulenza nel suo ministero. Diceva però che erano casi umani. Allora le volevo chiedere, visto che molti elettori del centrodestra sono delusi da questo, non elettori di sinistra, che cosa pensa di questo passaggio del governo del fare a quello del sistemare? Si sente di condannare questi atteggiamenti? Questa era solo la domanda, È bello però questo corpo. Solo, corpo, la, solo la domanda era questa. E io condivido al 100%. Ho visto la faccia, il piano d'ascolto, no? La faccia di Berlusca sempre più un po' più torva, no? Sorriso poco. Sì, no, ma bello, non è che, no? Scusami adesso, per carità. Con tutte, stampa. Sì, ma questa non è da conferenza stampa, no? Del genere da confronto diretto, faccia a faccia, che no, peraltro in Italia non c'è. Ma scusami, c'è delle regole. Sì, ho capito, ma non è che questa non ha ricordato i fatti. Non ha ricordato i fatti, è la sua interpretazione, il governo del sistemare invece che il governo del fare. No, amico mio, no, dai, si avvicina anche Natale, bisogna dire la verità. Ma cosa? Ma io non sto dicendo, non sto dicendo che sia falso quello che ha detto, sto dicendo semplicemente che ha parlato, questo qua mi pare più, diceva Telesi, il governo del sistemare più che il governo del fare. È d'accordo, ma insomma, questa è un'interpretazione della realtà, va bene, cioè tutto tutto l'operato pessimo o buono del governo viene riassunto da Telesi tutto quello che la sua Ma va bene, va bene. Ma la polemica va bene, sentiamo la risposta. Su TG1, su Rai 1. Allora gli facesse la domanda: cosa pensa del fatto che Bondi piazza la domanda diretta, non questo, prima Bertolaso, poi quell'altro. No, scusami, il premier racconta le barzellette, noi non possiamo fare delle domande. Ma sì, ma per carità, ma va benissimo. Telese 3, risposta di Berlusconi. Io penso che se andiamo a vedere che cosa ha fatto la sinistra, e che c'entra la sinistra? Questi casi, scusi. Ma io chiedo a lei. Adesso quindi io se la le do una risposta, ma posso articolare un ragionamento o no? Allora, se andiamo a guardare che cosa ha fatto la sinistra e che cosa fa, dov'è il governo, e se dovessimo andare a spulciare le situazioni, soprattutto nelle regioni rosse, dove c'è una occupazione della sinistra di tutti i momenti economici delle regioni stesse, vedremmo che questi sono casi di puro dilettantismo rispetto a una professionalità assolutamente elevata. Cioè Berlusconi dice non nega quello che è successo in alcuni casi, no, che sono stati portati alla sua attenzione da Telese, ma dice la sinistra fa di peggio negli enti locali. Vabbè, è come questo se dice uno ti dice scusami Vissani, che da cuoco mi sa, scusa Vissani, mi dai la ricetta, la pasta alla carbonara, dice sì, l'arrosto di vitello, dice come di vitello? Sì, la cosa di vitello si cucina in forno, io ti ho chiesto la carbonara, però la ricetta della carbonara. Sì, dunque, il pollo lo devi prima spennare, è così, cioè rispondere un altro modo. Cosa c'entra quello che ha fatto la sinistra? Lo sappiamo quello che non ha fatto la sinistra. Però attenzione, è spuntato un nuovo acronimo, non so se si possa definire così. E comunque bisogna allarmarsi. Secondo Brunetta è in opera il Fodria. Fodria, lo sentiremo. Il Fodria. Lo sentiremo dopo il traffico, eh? Anzi, dopo. Sì, dopo il traffico. Fodria, forze oscure della reazione in agguato. Perché fa proprio così, no? Ho avuto un attimo di perplessità. Fodria, forze oscure della reazione in agguato. Cioè, quelli che mettono in pericolo Berlusconi sono le forze oscure della reazione in agguato. Questo l'ha detto Brunetta? Brunetta, traffico. Beh, deve andare un po' in vacanza anche lui, secondo me. Traffico. Siamo qui alle 18.47, 800 24 00 24. Beh, da oggi si torna un po' a studiare, caro Parenzo. Si torna sui banchi di scuola, l'università, è stata approvata la riforma, basta. Bene. Basta manifestazioni, basta robe, tutto finito. Come? Poi ho visto che l'incontro degli studenti con Napolitano è servito molto per cambiare le cose. Una svolta è stata. La democrazia. Una svolta epocale. Oggi Repubblica in prima pagina. Napolitano incontra gli studenti. Titolo a caratteri cubitali. Napolitano incontra gli studenti. Però è cambiato nulla, zero. È cambiato niente. Oggi ad Agorà, bellissima trasmissione di Andrea Vianello, dove ogni tanto vado ospite umilmente. E ho sentito uno splendido dell'Arti, uno dei pochi che è sulle mie posizioni, Giorgio Dell'Arti, il quale diceva: ma queste manifestazioni alla fine non dicono nulla, non portano nulla, perché si dà troppa importanza a queste cose, a quello che succede in piazza. Uno dei pochi era lì, poi c'era Rita Armeni, eccetera, eccetera, tutti. Vabbè, ma in democrazia ci sono questi momenti, però non capisco, cioè ci sono delle cerimonie, no? Delle cose simboliche, sì, appunto, tipo l'incontro con appunto la le cerimonie, appunto le cerimonie. La democrazia vive di riti anche, no? Sì, oltre che delle urne. Facessero i riti. Riti, a te piacciono i riti, a me no. Brunetta, annoia, no? Brunetta contro di noi è in azione il Fodria, forze oscure della reazione in agguato. E non sarà un caso che si stiano coalizzando, e uso anche qui un termine che ha un po' di storia, le forze oscure della reazione in agguato, il Fodria. Le forze oscure della reazione in agguato sono quelle forze che stanno reagendo a questo processo modernizzatore di cambiamento che noi abbiamo realizzato. Beh, c'è da chiamare l'ambulanza, che dici? Sì, piccolina, magari un'ambulanzina, un'ambulanza smart, piccolissima. Ambulanza così breve, diciamo. Sì, no, non particolarmente l'ultima. No, perché gli vogliamo bene a Renatino. E poi si offende. Veltroni, scilipoti, uno scalmanato, c'è sempre uno scilipoti. Ci deve sempre essere uno scilipoti qui alla Zanzara, in qualche modo citato, in diretta, registrato. Ci deve comunque essere uno scilipoti. C'è un giornale riformista che sta facendo una splendida rubrica che si chiama Scilipoti's Corner, in cui sentono scilipoti ogni giorno sull'universo mondo, su qualsiasi argomento possibile e immaginabile, su quello che fa scilipoti ogni giorno. Via. Io vorrei fare il capodanno con Scilipoti. No, vabbè, adesso non esagerare. Sì, sì, sì. Dove farà il capodanno? Dove farà il capodanno Scilipoti? Chissà. Ah, Scilipoti non lo so, io vorrei, ti assicuro, vorrei fare il capodanno con Scilipoti. No, ma che orrore, che orrore. Sì, sì, io e Scili. Veltroni, Scilipoti scalmanato. Pensare di poter governare questo paese con quello scalmanato di Scilipoti o di altri, a me pare difficile. Adesso naturalmente Scilipoti gli ha risposto: adesso vengo definito anche scalmanato. Se scalmanato significa cercare di difendere gli interessi degli italiani e la propria dignità, allora lo sono e non me ne vergogno. Dice: nel fare il mio lavoro di deputato, in 2 anni e mezzo ho prodotto 28 proposte di legge come primo firmatario, 133 interrogazioni parlamentari, 37 ordini del giorno, mentre onorevole Veltroni nello stesso periodo di tempo ha prodotto 10 proposte di legge, 12 interrogazioni parlamentari e un ordine del giorno. Sarebbe finalmente ora che un politico come l'onorevole Veltroni, dopo oltre 30 anni di presenza in Parlamento, come aveva promesso, vada a lavorare in Africa. Cioè, se ne vada in Africa, vabbè. Scilipoti è uno spettacolo totale. Durissimo. Davide, provincia di Lodi. Davide, però buonasera. Sembra un cartone animato, è scritto tipo Topolino sulla luna. Scilipoti contro Veltroni. È uguale. Sai quei fumetti che si leggevano da bambini, no? Oggi è andato in onda Scilipoti contro Veltroni. Davide. Sì, pronto? Buonasera, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Spero di spiegarmi bene, perché non voglio assolutamente avere ambulanze o cose varie. Ecco, appunto, no? Anche noi, però, altrimenti il 118 ci chiama in causa, perché non è che possiamo sprecare le ambulanze, la gente ha bisogno sul serio. Assolutamente. Senta, io la seguo da qualche anno, insomma, mi piace molto la trasmissione e quant'altro. Avverti un attimo, Parenzo, avverti però. Preallertiamo. Davide. No, la seguo da un po' di tempo e apprezzo tantissimo. Lei ha il merito di avermi trasformato da elettore convinto di Berlusconi a elettore comunque di Berlusconi ma critico, perché grazie a lei sono riuscito ad aprire gli occhi su certe cose, che non si può accettare di votare una persona incondizionatamente, bisogna anche riflettere e saper criticare, e questo è il merito che ha lei. Da un po' di tempo a questa parte, ed è dai dì di Luca Telese in poi, e oggi David Parenzo, ha tolto quella parte, sono un po' loro che fanno gli ascoltatori che chiamano, ecco, sono loro a fare i commenti e a buttarla un po' in cacciara, E a noi manca Cruciani, che invece assorbiva tutte le telefonate e se le portava fino alla fine. Questo secondo me è quello che manca un po'. E il merito comunque ce l'avrà sempre, insomma. Va bene, Davide, la ringrazio. Lei vorrebbe che io cacciassi in questo caso Parenzo? Ma senza cattiveria, povero. No, Parenzo, per carità, con un buffetto. Con amore. Con amore, come lo vogliamo cacciare questo Parenzo? Con amore, con un abbraccio, con un buffetto? Abbassi la radio intanto, Davide, sennò un ritorno penoso. No, chiamo tre ambulanze. Non ho niente. Va bene, Davide, vedrò cosa posso fare. Va bene un buffettino? Un piccolo. Un buon Natale senz'altro, anche a bene voi. Grazie. In relazione alla risposta data dal presidente Berlusconi alla domanda del giornalista Luca Terese del Fatto Quotidiano, si deve precisare che le indicazioni esposte dal giornalista stesso sono frutto di mere illazioni e sue personali supposizioni. Lo scrive una nota all'ufficio stampa del portavoce del Premier, addirittura sottolineando che la risposta del presidente perciò non conteneva alcun giudizio di disvalore su quelle vicende, perché naturalmente l'interpretazione del fatto potrebbe essere è vero quello che ha raccontato, però le cose le fa anche la sinistra, da lui mai approfondite. Si trattava soltanto di un'osservazione di carattere generale. In particolare il presidente Berlusconi ha potuto verificare l'assoluta e totale inconsistenza delle accuse nei confronti della questione dell'ACI, della Brambilla, eccetera. Francesco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Cruciani, volevo una sua opinione, visto che lei è giornalista e quindi molto più competente di me. Non è detto comunque. Beh, su un giudizio anche tecnico su una conferenza stampa, senz'altro. Ah, quello sì, fino a quello ci arrivo, Francesco. Ecco. Quindi sulla conferenza stampa di oggi, sulla sostanza della conferenza stampa, volevo sapere cosa ne pensa lei. Ma guardi Francesco, io le conferenze stampa, che valore si può attribuire alle conferenze stampa? Scusi, abbia pazienza, da che mondo è mondo? Le conferenze stampa sono per definizione lo sfoggio di chi le fa. Cioè la conferenza stampa in particolare le conferenze stampa di fine anno, in cui uno dice il governo ha fatto delle cose meravigliose, bellissime, straordinarie, ma questo tutti i governi da quando c'è questa usanza di fare le conferenze stampa di fine anno, anche per il Presidente del Consiglio, non mi ricordo inaugurata da chi, forse dallo stesso Berlusconi, comunque le faceva anche Prodi, se non sbaglio, le fece anche Prodi. Per cui, insomma, non lo so, a me sembra che siamo nel solco della tradizione, non c'è niente di bizzarro, non c'è niente di nuovo, cioè conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio elogia se stesso, elogia l'operato del governo, cioè una cosa propagandistica, ma è normale che sia così, non lo sto dicendo in senso negativo, con un'accezione negativa. Mi pare che siamo nel campo della normalità. Poi naturalmente Berlusconi ci mette del suo, faremo ascoltare più avanti tante cose, parte la questione del nome di Forza Italia, come mi pagavano gli studi, Barbara influenzata dalla madre, una mia vita, la mia vita esempio per tutti, questo siparietto con Telese, vieterei ai miei figli di scendere in politica, tante cose che ascolteremo più avanti. Ma insomma, siamo davvero nella normalità o no? Quindi gli si dà semplicemente un'attenzione eccessiva se la si trasmette in diretta su Sky, domani se ne parlerà su tutti i giornali. Cioè, sbagliamo a dargli tutta questa importanza. Adesso non lo so, ma mi sembra Bersani, nemmeno Kim Il-sung, dice, lo sentiremo anche questo più avanti. Cioè, non si comporta così nemmeno Kim Il-sung, ha detto Bersani. Adesso francamente, Kim Il-sung, cioè, insomma, Bersani è stato nel Partito Comunista, ha qualche legame con Kim Il-sung, ma al di là di questo, insomma. Il punto è che non, insomma, Berlusconi fiume, la questione del TG1, qualcuno si scandalizza per il TG1, caro Parenzo. Per il TG1 che è stato, che ha fatto? È stato ritardato per mandare in onda la conferenza stampa? No, non c'è stato. Che è successo? Diciamo che non c'è stato il TG1. Non c'è stato il TG1. Nessuno ha notato la differenza, diciamo, no? Cioè, se mettevi la sigletta iniziale del TG1 e poi mandavi integralmente il... Vabbè, adesso questa è la tua battuta. Il TG1 è fatto anche di servizi, di cose, di cronaca, non è che sia la conferenza stampa di Berlusconi. Mancava la parte sul cane e il gatto, sul fatto che d'inverno spesso piove e fa freddo. E poi i terribili consigli per la cena di Natale. Io non sopporto più quei servizi dove ti dicono che a Natale si mangia il cappone e che c'è la cena tradizionale, si mangiano i tortellini. Non li sopporto questo, più. Servizi che fanno tutti, però. Servizi che fanno tutti, peraltro. Vabbè. Si dilunga di più. No, non credo. Vabbè, saluto Francesco e ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19, 800 24 00 24. Caro Parenzo, cerca di spegnere questo cellulare, altrimenti si scarica. A fra poco. Yeah. Eccoci qui, caro Parenzo, siamo alle 19.18, tu a che punto sei del tuo viaggio verso Siena? Sono a metà strada, perché per uscire da Roma c'era un traffic jam terribile, una situazione terribile, a metà strada. Va bene, sentiamo insieme i titoli del TG3. Hai fatto mente locale su questo Fodria, le forze oscure della reazione in agguato, secondo quanto riportato da Brunetta, forze oscure della reazione in agguato che sarebbero la vera minaccia nei confronti del governo Berlusconi. Ci ho ripensato. Mi sembra veramente una cagata pazzesca, come direbbe Fantozzi. TG3. Però... Al Senato via libera definitivo la riforma dell'università, ancora tensione in aula, contestazioni poi scuse alla Finocchiaro. Al TG3 alcuni ragazzi ricevuti ieri da Napolitano, questo voto non ci ferma, resisteremo un minuto di più di questo governo. Pacchi bomba alle ambasciate della Svizzera e del Cile a Roma, feriti due dipendenti, Frattini minaccia grave, Maroni pista anarchica. Berlusconi a gennaio verifica maggioranza più forte o voto, tavolo col terzo polo, Fini non è super parte, si figli, ma in politica. L'apertura al terzo polo, no di Casini e della Lega, Bersani, lui non tratta, compra. Fini inammissibile il dibattito sulle mie dimissioni. Lunga giornata di trattativa a Torino tra Fiat e sindacati sulle nuove regole per Mirafiori, resta il no della FIOM. Pronti a tornare a Roma per far valere i nostri diritti, dicono gli aquilani, in assemblea da gennaio dovrebbero tornare a pagare le tasse. Siamo qui, ancora in testa questa cosa della luce di Vinci di ieri. Berlusconi come la luce dopo 400, il giorno più lungo da 400 anni. 100 anni, sì, era 300 anni. Vabbè, non so poi... chi gliel'ha detto, forse Quark, Piero Angela, che ne so. Diverse teorie a riguardo, forse lo stesso Berlusconi. La teoria più accreditata è lo stesso Berlusconi, eh? Lo stesso Berlusconi. Oggi ho fatto un piccolo sondaggio. Ah, beh, questa è una notizia, eh? Lo stesso Berlusconi avrebbe suggerito. Questa è una notizia. Il bocchino del giorno. Via. E non parla più Italo. No, è tornato a parlare. Sesso è bello, ah, sì? È piacevole. Si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Eh beh, dopo diversi giorni, cioè dopo dalla fiducia in poi di silenzio, Bocchino è tornato a parlare sul sito di Generazione Italia, se non sbaglio. Sentiamo questa cosa, cosa gli imputano a Fini? Perché sai che la Lega vorrebbe mettere in discussione il ruolo del Presidente della Camera, ma è un dibattito che non si può fare e che non si farà. Cosa imputano a Fini? Meglio ricevere Guzzanti al Senato, alla Camera, negli studi della Camera, piuttosto che altre persone, riferimento a Silvio e le donne. Bocchino. A Fini che cosa gli si imputa? Di aver ricevuto nell'appartamento privato di Presidente della Camera un deputato autorevole e importante come Paolo Guzzanti? Beh, meglio ricevere Guzzanti nell'appartamento privato da Presidente della Camera che ricevere altre persone che gli italiani sanno nell'appartamento privato del Presidente del Consiglio. Bocchinata del giorno. Come tagli corto però. Vai su. Rubi ruba cuori. Ma cosa c'è? A parte che Rubi ruba cuori nella Villa Certosa. La nipote di Mubarak. Va bene, a questo si riferiva. Sono un'amica di Ahmadinejad qui vicino. Ma che c'entra l'amica di Ahmadinejad? Che cosa c'entra? Sono entrato nel bagno del Torpedone, perché questi autobus moderni hanno anche il bagno. Senti un'altra bocchinata del giorno, Ma non ha detto una stupidaggine, qui mi pare, però. Bah, ha fatto una battuta ricordando una cosa vera. Vabbè, ma insomma. No, non ti è piaciuto. Sì, no, ma ci sta tutto. Non... Ha detto una Chi è che rimprovera Fini? Qualcuno, domanda, siccome qualcuno nel centrodestra ha accusato Fini di aver ricevuto Guzzanti per farlo passare, per fargli votare la sfiducia nell'appartamento privato di Presidente della Camera, adesso lui dice: guardate invece cosa fa Berlusconi nei suoi appartamenti privati. Ma insomma, non vedo cosa c'entri. Comunque, vabbè, ma ci sta tutto. E infatti è il bocchino del giorno. D'altra parte è il bocchino del giorno. Questo è il nome della rubrica. Oggi Berlusconi dice, Bocchino, che pensa di fare una sorta di controconferenza stampa. Oggi Berlusconi ha dato ancora una perla di saggezza istituzionale. Via. Ma oggi Berlusconi ci ha dato un'altra perla della sua saggezza istituzionale con una conferenza stampa senza canovaccio, lanciando offendenti a destra e sinistra. Poi, questo diciamo, non voleva dire nulla. Se i magistrati sono così eversivi, sempre Bocchino, perché Berlusconi non li denuncia? Poi Berlusconi ci ha anche spiegato che i magistrati sono politicizzati e che all'interno c'è un'associazione addirittura eversiva. Mi chiedo perché il capo del governo non denuncia direttamente alle autorità competenti l'esistenza di una organizzazione addirittura eversiva. Sempre per quello che riguarda i commenti, andiamo a Bersani. Dopo la chiusura della rubrica Il Bocchino del Giorno, andiamo a Bersani, Pierluigi Bersani, segretario del Partito Democratico, che paragona Berlusconi a Kim Il Sung. Inevitabilmente verrà fuori l'esigenza di un giudizio su quel che abbiamo sentito in queste ultime due ore e mezzo, tre. Credo che nella classifica Kim Il Sung, Lukashenko, siamo a quell'ordine di grandezze, no? Saltano i telegiornali. Io mi chiedo se ha ancora senso a chiederlo in quale normale paese d'Europa succede una cosa così. Cosa ha detto però Berlusconi oggi alla conferenza stampa? Tante cose, naturalmente. Prendiamo quelle che riguardano la famiglia. Barbara, per la sua intervista a Vanity Fair, influenzata dalla madre quando parla di un papà indebolito per la questione delle frequentazioni femminili. Via. Ma lei non crede di dover dare delle spiegazioni agli italiani su queste debolezze che secondo sua figlia hanno inciso sulla vita pubblica? Non c'è stata nessuna debolezza. Naturalmente i figli sono influenzabili dalle madri. E quindi anche nelle famiglie, in tutte le famiglie ci possono essere situazioni di questo genere. Io voglio molto bene a Barbara, è molto brava, eccetera, eccetera, ma evidentemente in questa situazione ha subito delle influenze. Però scusami, caro Parenzo, mi sembra che non sia stata una conferenza stampa rose e fiori con i giornalisti, cioè c'erano delle domande anche abbastanza puntute, quella di, no, ma infatti quella di Telese, critica, quella ma di... Ma chi lo critica questo, infatti nessuno? No, voglio dire, siccome Bersani parla di Kim Il Sung e di una sorta di conferenza stampa fiume in cui Berlusconi ha potuto dire tutto e controllare di tutto a suo piacimento, non mi pare, cioè questa giornalista per esempio ha posto una questione... Ma una domanda posta molto bene, molto civile. Beh, appunto, stiamo dicendo, tutto si è trattato tranne che di un'auto esaltazione. Poi ci sono state anche le parti in cui Berlusconi ha illustrato quello che ha fatto e che non ha fatto. Però è che se il palinsesto normale della televisione pubblica. Ah, ma tu stai parlando del TG1, del TG1. Stai parlando del TG1. Sì. E beh, viene stravolto. Ma sì, ma il TG1 non bisogna rimandare, non bisogna mai rimandare. La conferenza stampa di fine anno non può incidere sul TG1. Questo mi pare evidente. Certo. Mi pare evidente. Minzolini ha scelto così. Che vuoi fare? Che vogliamo fare? Vuoi impiccare? Che vuoi fare? No, impiccare, voglio anche bene io a Menzolini, sicuro. Ma insomma, non l'ho mai incontrato prima. Non mi pare che ti vuoi bene, comunque. Ma sì, è un giornalista, anche lui, credo. Quindi va bene, ma non c'è, è una critica costruttiva che gli faccio. Lui poi figura il direttore del TG1. Io sono l'ultimo collaboratore che c'è sulla faccia della terra, figuriamoci se... La mia vita è un esempio per tutti, Berlusconi, via. Io conduco una vita che può essere portata ad esempio di tutti. Parlavamo di giovani, dei giovani. Ho fatto il calcolo di quanto lavoro io al giorno, dormo solo 4 ore, lavoro il sabato, lavoro la domenica, una ventina di incontri quotidiani, 52 telefonate di media. Credo che nessuno possa vantare alla mia età una capacità lavorativa come la mia. Allora, ho fatto il calcolo, 4 ore di sonno, 20 incontri quotidiani e una cinquantina di telefonate, però mi sembra poco. 52 telefonate, 52 ha detto. Mi sembra poco però 52 telefonate, no. Una media... Perché le altre le prenderà qualcun altro, Buonaiuti, c'è qualcuno che... No, in questo calcolo c'è tutto, in questo calcolo c'è tutto. Beh sì, per forza, non credo che Berlusconi risponda direttamente al telefonino, per cui... appunto. Per cui c'è tutto, cioè 52 telefonate sono quelle che... consuma Berlusconi. Beh, non mi pare molto. Tu quante ne fai? Di più, tu quante me. Ne fai al giorno? No, beh, no, guarda che 52. Facciamo 6. No, 52 sono tanti. Facciamo 10. Poi due volte al giorno chiamo mia moglie. Siamo già a 15. Guarda che per arrivare, no, noi non ce ne facciamo 10 di telefonate. Poi chiamo il mio commercialista, poi chiamo la banca, poi chiamo l'idraulico. No, ne ho una trentina po', ne fai, però 52 sono tante, 52 sono tante, ma andiamo a sentire la borsa tra poco. No, non prima di che c'è la soluzione del caso Prestigiacomo, che in realtà poi non è così chiaro, eh. Prestigiacomo, caso risolto secondo Berlusconi. Intanto dico che il caso Prestigiacomo è risolto. Ieri sera c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il ministro Prestigiacomo e il capogruppo Fabrizio Cicchitto. E vabbè, è risolto, dice Berlusconi. Poi c'è il famoso tavolo con il terzo polo, che solamente la sola frase mi fa accapponare la pelle. Voglio fare e poi figuriamoci se Berlusconi crede lui, Berlusconi, di aprire un tavolo con il terzo polo. Vorrebbe dire far riconoscere, che vuol dire la vittoria di Fini. Ma poi che vuol dire? No, ma proprio aprire un tavolo con il terzo polo non significa nulla. Politichiera vuol dire semplicemente fare quello che Fini voleva, cioè sedersi al tavolo con Berlusconi, della maggioranza, e restituire l'agenda di governo. E questo dimostra quello che abbiamo detto in queste settimane. 2013, un attimo, mi è venuto in mente il 2013, perché dice che non si vuole candidare. Questa è una mezza notizia. 2013. Per quanto riguarda il 2013, io sono convinto che stiano crescendo nuove forze assolutamente capaci di diventare Presidente del Consiglio e di portare avanti il Popolo della Libertà e il centrodestra. Borsa, torniamo subito per il Quirinale, dice Berlusconi, poi ho un altro nome, ma ci sentiamo con ascoltatori. E poi abbiamo il presidente della Lombardia, Formigoni, in diretta qui alla Zanzara. Prima del Natale, veramente un prima del Natale, vedo, obbligo, d'obbligo per un cristiano come Formigoni, il celeste. E beh, sì, sì, celeste. Certo. Celeste. Borsa. Fatemi risentire Vinci, su, via, Vinci. Buonasera, buonasera, benvenuti a Matrix. Pensate che oggi è stato il giorno più buio degli ultimi 400 anni. È stata una strana coincidenza astrale fra il solstizio di inverno e un'eclissi di luna. Ha fatto sì che oggi è il giorno più buio. A portare un po' di luce qua nello studio di Matrix una persona che è capace di attirare però la luce dei riflettori e non solo quelli televisivi, quindi soprattutto della politica. Lo ringrazio. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio. Intanto dolore, niente di sbagliato, niente, niente, siamo nella stessa lacrima. Già si picchiano duramente, caro Parenzo, Feltri e Sallusti. Senti cosa ha detto Feltri durante la conferenza stampa, non so dove, della presentazione del nuovo libro con Belpietro. Siamo berlusconiani senza essere pagati da Berlusconi. Oggi potremmo persino essere berlusconiani senza essere pagati da lui. È il primo che ci dirà: ma voi siete berlusconiani, siete la stampa al servizio del dittatore folle, vi paga, eccetera. No, noi non querelleremo, chiederemo dei danni però pazzeschi. Noi saremo gli unici al mondo, in Italia, cioè. Beh, oggi sulla prima pagina del giornale c'è questo spillo. C'è chi è pagato da Berlusconi e chi è pagato dai contribuenti. Bisogna saper scegliere. Botte da Orbi. Paolo, provincia di Ravenna, buonasera. Buonasera, sono Dica. Paolo da... Io sono di quelli che 21 anni fa era della Pantera. E quindi ho alcuni ricordi che forse potrebbero essere interessanti da mettere un po' in piazza. Vediamo, sentiamo. Io ricordo che all'epoca, non so se avrà che memoria anche lei, si ricorda, c'era il ministro Ruberti. No, non mi ricordo, sì, adesso lo ricordo naturalmente, però insomma. Lui sì, era un po' un carneade, per carità, però propose quella riforma universitaria molto impostata sull'autonomia, quindi proprio le parole che si dicono adesso sulla privatizzazione c'erano anche allora, e anche poi le formulazioni, anche il modo di... Cioè la paura della privatizzazione dell'università, esatto, che i privati entrino all'università, esatto, che poi è in contraddizione col fatto che magari si protesta contro il precariato e cose di questo tipo. Comunque, lasciamo perdere. No, ma infatti esistevano poi tutto il campionato degli slogan che poi escono adesso. In effetti, io ero da quella parte lì, quindi non è che ho niente da dire. Dal punto di vista assistenziale ho solo che bei ricordi. Vabbè, Paolo, che ci vuole dire? Al di là dei bei ricordi... Voglio dire che c'erano senz'altro una serie di situazioni abbastanza forti, voglio dire, eravamo presi secondo me un pochino più in considerazione, cioè non soltanto come strumentalizzazione, non c'era gente che saliva sui tetti, per intenderci, anzi addirittura ricordo che allora senatore o deputato Pasquino, non ricordo se era in Senato, ci propose e noi naturalmente rifiutammo, di portare direttamente in Parlamento, proprio in belli impacchettati, tutte le nostre proposte. Avevamo 10 punti, vi porto 10 punti e li faccio discutere in Parlamento. Vabbè Paolo, lei dice si stava meglio, si stava meglio ai tempi della Pantera piuttosto che con la protesta attuale. Però dico una cosa, Paolo, al di là di questo, però, si sbrighi, perché non è che possiamo ricordare i tempi della Pantera come fossimo... No, voglio dire che alla fine noi bloccammo la riforma, perché di fatto fu un peso abbastanza importante, secondo me, quella protesta lì. Però alla fine facemmo il gioco dei restauratori, perché l'università... E chi erano i restauratori? Peggiorò ulteriormente, questo bisogna dirlo. Ah. Beh, certo, questa è una considerazione intelligente, Paolo, perché io credo che, come al solito, poi le proteste non abbiano prodotto assolutamente nulla, anzi... alla fine devo possono dire pure sì. fermare qualche piccolissimo segnale di riforma. Grazie Paolo, grazie. Altri ascoltatori, grazie. Matteo da Perugia, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica, buonasera. Parenzo, sei tornato? Sì, ci sono. Matteo. Oh, ecco, sì. Allora, io volevo sapere una vostra opinione su questa cosa. Mi dà molto fastidio, sebbene io non sia d'accordo poi con la maggioranza delle azioni intraprese da questo governo, però mi dà fastidio che oggi si parli, per esempio, del fatto che non siamo in democrazia perché è passata la legge della Gelmini. Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Scusi, no, chi lo sostiene? Io faccio riferimento anche al... per esempio alla telefonata con Santa Maria, che è un bravissimo attore, per carità, mi piace. È Santa Maria, come direbbe Sansonetti, è Santa Maria, cioè non è che ha detto un sacco di scemenze, perché secondo me, perché se quando gli chiedeva ma chi è che non ascolta, loro sono i politici, queste persone che se la prendono con la classe politica, come se venissero da Marte i politici. Ma secondo me, e volevo sapere la vostra opinione sua e di Parenzo, cioè i politici sono italiani e secondo me sono degni rappresentanti del popolo italiano, perché se domani cambiamo tutta la classe politica, secondo lei non c'è un altro Bersani, non c'è un altro Scilipoti, non c'è un altro Berlusconi, cioè troviamo tutte persone virtuose? Io credo No, Matteo, questa è una considerazione che ci può stare. Lei dice, insomma, la classe politica viene molto criticata, ma alla fine è lo specchio della società italiana. Va bene, grazie. Assolutamente, grazie a voi. Allora, c'è un'interpretazione su questa cosa di Vinci e della luce. Un ascoltatore che mi scrive: il giorno più buio di 400 anni, Vinci l'ha saputo ascoltando l'oroscopo di Branco su Radio Dimensione Suono. L'ho sentito anch'io. Può essere pure la mattina, magari, no? Sapendo che andava Berlusconi, ha sentito l'oroscopo su Dimensione Suono da parte di Branco, che diceva: il giorno più buio degli ultimi 400 anni, se l'è segnato, oggi viene la luce a Berlusconi. Vabbè. Una bella trovata, sì. E viva Branco allora. Viva, viva, viva, viva. Se viene da questo, perché poi non è sicuro. Eccoci qui, caro Parenzo. E voilà. Con il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, buonasera. Buonasera a voi. Il celeste, preceleste. Senta, da dove viene la parola celeste, il suo soprannome celeste? L'avrà detto mille volte, lo so, lo dica per la milleunesima. No, è un soprannome che mi hanno attribuito alcuni colleghi consiglieri regionali. Ma poi quando? Non so, forse abito, come abito al 30° piano, spesso sono nell'azzurro dei cieli, ma con i piedi ben saldi per terra, questo sempre. Questo, non mi dica che con la testa sul collo, cioè come Totò, si ricorda, con la testa sul collo... sul collo, ovvio, ma così nell'azzurro dei cieli coi piedi per terra. D'altra parte lei è in quella zona lì da tanti anni, ma non si è un po' scocciato di fare il governatore della Lombardia? Basta ormai, Formigoni. Guardi, sinceramente, ho avuto un periodo alcuni anni fa in cui dicevo ma cambiamo. Poi però il lavoro che faccio in realtà è costantemente nuovo, nel senso che abbiamo affrontato e credo risolto bene o abbastanza bene molti problemi, per cui sono nuove le prospettive con cui mi cimento così degli obiettivi sempre più sfidanti che continuano a catturare il mio interesse e la mia passione. Però siccome lo stesso Berlusconi oggi in una conferenza stampa ha detto che nel 2013 si potrebbe pensare, poi sa com'è Berlusconi, si potrebbe pensare ad un altro candidato nel centrodestra, lei che fa, un pensierino così, non ce l'ho? Guardi, onestamente non sono posti sui quali bisogna fare calcolo, quindi se Berlusconi decidesse nel 2013 di non voler più scendere in campo in prima persona, noi del centrodestra sceglieremo un nuovo candidato. Ma io, come? Come si sceglie? Io da tempo avevo suggerito la proposta delle primarie, poi vedo che nel PD le primarie non hanno molto fortuna. Noi o cercheremo di realizzare le primarie in un modo molto più serio, con una gara vera, aperta, leale, oppure parlando insieme. Guardi, io credo comunque che la cosa importante sia quella di far parte di una squadra e di tenere viva la squadra del centrodestra. Poi si può scegliere insieme chi deve essere il portabandiera. In fondo anche ad ogni Olimpiade c'è un portabandiera diverso, potremmo candidarci a 3-4 Olimpiadi e fare così, dividerci le responsabilità. Parenzo, ma secondo te Formigoni ci pensa o non ci pensa? Parenzo, tu che lo conosci meglio di me. Potrebbe degnamente aspirare, diciamo così, a guidare questo nuovo PDL, che tra l'altro, ecco, io volevo chiedergli questo, sulla questione del nome. No, ecco, sì, il nome. Questa è una questione importante. Lei ha qualche notizia da darci su questo nome che il presidente vorrebbe cambiare? Ne ho parlato proprio ieri con Berlusconi, il quale aveva appena letto una mia dichiarazione rilanciata dall'agenzia in cui mi dichiaravo entusiasta di un eventuale ritorno al nome di Forza Italia. E lui mi ha detto: Roberto, la penso esattamente come te, Forza Italia sarebbe il nome migliore, però non possiamo riproporre. Cioè, lei sarebbe per Forza Italia? Ma Forza Italia a me è un nome che piace moltissimo, ha significato molto, è nel cuore di tanti nostri elettori, di tanti nostri militanti. Diciamo così, il PDL non è stata una fase molto felice e quindi quel nome PDL... Bisogna cancellarlo. Cambiato, cancelliamo. Però Berlusconi mi ha detto sì, però io sto pensando anche di nomi nuovi. Gli ho detto va bene, dai, quando ti è venuta qualche idea più brillante di Forza Italia ce ne parlerai e faremo una valutazione insieme. Però ha detto che ci vuole un nome corto. Sì, lui ha detto l'altra sera a Matrix che sta pensando il nome di una sola parola. È difficile. Ieri ho detto: ma stai pensando veramente a un nome di una sola parola? Dice sì, però non è facile, pensare ad un nome, ad una denominazione di un partito di una sola parola. Ci abbiamo provato ieri sera. Riconosco che mi reputo molto bravo dal punto di vista della comunicazione, riconosco che Berlusconi è più bravo di me. E quindi se veramente inventa qualche cosa di ancora migliore, ben venga. E che può essere? Italia? Però Italia no, non si può dare. Italia non è possibile. Italia è un bellissimo nome, ma rappresenta un'altra cosa. Non si può fare, un partito Italia non si può fare. Vero che il nome di un partito, ovviamente il nome rappresenta la cosa in tutto, ma soprattutto nel partito è vero che deve suscitare emozione, deve suscitare identificazione. Da questo punto di vista, Forza Italia ha rappresentato questo per noi. L'idea del popolo ha rappresentato anche questo, ma Popolo e Libertà è diventato troppo complicato. Non è venuto fuori. Poi era una cosa brutta, lei. L'ha scelto Berlusca. Alcuni lo chiamavano addirittura l'APDL. Insomma, non è stato un esperimento felice, difatti è andato male anche da altri punti di vista. Ma insomma, lei un'idea ancora non l'è venuta, no? Ribadisco il mio gradimento per Forza Italia. Intanto ho lanciato questa sorta di pensiero collettivo, cercherò magari nei prossimi giorni, tra un cenone e l'altro, di fare qualche cosa anch'io. Se mi venisse l'idea la butterò sul mercato. Pare che il Cavaliere abbia chiamato addirittura i tecnici di Bush. Addirittura c'è bisogno dei tecnici di Bush. Basta Formigoni. Scusi, io ho detto lei questa cosa. Non sapevo che avesse chiamato i tecnici. È così, di Bush. Il Corriere della Sera. Scrive questo, poi sei giornali, poi. Però tecnici. Come consulenti possiamo sentire tutte, dopo l'importante è che decidiamo noi. Senta, ma secondo lei Scajola torna? Perché ho sentito parlare anche Scajola di questa cosa nel partito, così a organizzare. Nel partito Scajola te. Lei mi dice se tornerà a un ruolo di primaria. Un ruolo di primaria responsabilità, certo, quello intendevo. Non lo so, francamente non lo so. Sarebbe anche augurabile, questo, sarebbe auspicabile secondo lei? È uno dei temi che dovranno essere affrontati. Certamente deve tramontare questa idea della del 70-30, ricorda, 70% di Forza Italia, 30% di Enel, ormai basta, siamo un partito solo, alcuni se ne sono andati, oggi bisogna andare ad una stagione di congressi in cui far parlare i nostri elettori, far scegliere gli uomini, i responsabili dei nostri elettori, avere un grande confronto di idee, perché un partito democratico come noi siamo e vogliamo essere non ha paura del confronto interno, ovviamente sulla base della fedeltà ai valori che costituiscono l'identità del partito stesso. Però la questione di Scajola, secondo lei dovrebbe spiegare, per concludere poi su Scajola, dovrebbe spiegare qualcosina prima magari di tornare a occuparsi? Su quella famosa casetta? Sì, su quella casetta, su altre cose, oppure no, oppure non uno si può occupare tranquillamente del partito senza avere spiegato fino in fondo quella vicenda lì. Ma no, io credo che lui sia prontissimo a spiegare tutto. Noto che si è fatto un gran can can, ma nulla gli è stato formalmente... No, dal punto di vista giudiziario, nulla è stato formalmente accusato. Quindi se la magistratura non ha ritenuto di rintracciare nessun comportamento disdicevole, perché altrimenti gli avremmo inviato un avviso di garanzia come dovere della magistratura fare, probabilmente abbiamo assistito a un gran polverone mediatico, però non conosco la cosa, quindi ritengo soltanto che Scajola potrebbe essere prontissimo a spiegare e nulla la magistratura finora ha trovato di disdicevole. Allora, Parenzo, prima di fare qualche altra domanda al Presidente della Regione Lombardia, che succede con questi telefoni? Direi di prendere qualche altro ascoltatore. Che dici, Parenzo? Tu che sei sul torpedone per Siena. Stefano da Novara, buonasera. Oh, buonasera Cogiani. Buonasera signor Stefano, come va? Grazie del signore, lei è veramente molto gentile, soprattutto per il non fatto tanto, che io comunque mi lasci parlare per cortesia? Prego, parli. Perché io non sono bravo come lei, non parlo tutte le sere ad un pubblico così vasto. Non si preoccupi. Mi dispiacerà fra non molto, perché andrò in pensione, di non sentirla più per radio. Perché? In macchina, insomma. In macchina. Va bene, sì, Stefano, andiamo al sodo, dica pure. Allora, andiamo al sodo. Io quello che mi permetto di fare l'accento, soprattutto per gli orari e per la sua cultura, per la persona che è, ma dico, certe espressioni così colorite mi lasciano... Quali? Mi scusi. Tipo quella di ieri sera quando parlava degli studenti della trasmissione di cosa, come si chiama? Va bene, adesso mi sfugge il nome. E dice, dicono delle cazzate. Stasera dice, sono delle bocchinate. No, attenzione, la parola, no, ma Stefano, lei può avere tutto il diritto di rimproverarmi di utilizzare ogni tanto dei termini un po' fuori dalle righe. Un secondo, Stefano, un secondo, perché la sentiamo male. Vabbè, non mi sente. La sentiamo, siccome la sentiamo molto male, le voglio rispondere subito. Allora, il bocchino del giorno, se uno ha il cognome così, io cosa ci posso fare? Mica me lo sono inventato io il cognome. È una rubrica che facciamo ogni tanto per far sentire delle frasi di Italo Bocchino. Per quello che riguarda la parola cazzate, lì ci sono diverse scuole di pensiero, alcuni possono considerare una parolaccia, altri no, è un'espressione diciamo un po' colloquiale che ormai ha praticamente preso piede, non la definirei nemmeno più una parolaccia, insomma. Sì, ma scusi, lei mezz'ora fa che a riguardo di Bocchino come si è espresso? Ho capito, una bocchinata, c'è una frase espressa da Bocchino del giorno, ma non c'è nessuno, è lei che fa riferimento è lei che fa dei sottintesi, ma nella maniera più assoluta no, ma che farei lo stesso la rubrica anche con se qualche altro parlamentare mi desse lo spunto per farla. Ringrazio. Dove andiamo? Gabriele da Milano, buonasera, come sta? Dica, bene. Senta, mi ha colpito prima quando ha detto di Berlusconi che si alza e dorme 4 ore. Ah sì, 4 ore, poi altre, sì. Poi 52 telefonate. 20 incontri quotidiani. Per una domanda. Adesso chiedo, fra poco chiedo a Formigoni invece la sua giornata com'è, se è più intensa di quella di Berlusconi, se dorme di più. Gabriele, no, dica. Ma io mi domando però quando governa, cioè come fa a governare? Beh, scusi, al contrario, abbia pazienza. Se uno dice di dormire 4 ore, in teoria governa. I 20 incontri quotidiani sono i governare. Scusi un attimo, i 20 incontri, adesso si può criticare tutto a Berlusconi. quello che fa, quello che non fa, la sua vita, eccetera, ma dal punto di vista, seguendo quello che ha detto, dormo 4 ore, faccio 52 telefonate e 20 incontri quotidiani, questa è, c'è anche l'attività di governo in tutto questo, o no? Sì, aspetti. O no? Non c'è contraddizione in questo, Gabriele? Aspetti, però mi deve lasciare dire una parola sola. Dica. Governare non è fare. Vabbè, ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso. Brianzolo, ma che significa governare fare? Non ho capito la distinzione. Governare vuol dire prendere decisioni importanti. Vabbè, ma quello poi è un giudizio. Secondo lei non prende decisioni importanti, non governa, ma, quello è un giudizio politico. Non dico questo, dico quando hai il tempo di governare, questo mi domando. Ma scusi, che significa quando hai il tempo? È al contrario, la sua giornata è di 20 ore, come quando trova il tempo di governare. Seguendo il ragionamento di Berlusconi, ha 20 ore al giorno, diciamo, dedicata all'attività di governo, sbaglio? No, anzi, sicuramente. In teoria, no? In teoria. Allora il tempo lo trova. Non c'è contraddizione in questo. No, ma io non parlo di contraddizione. Dico soltanto che è molto difficile poter governare quando si è molto impegnati nel fare, perché sono due cose diverse. Ma non ho capito niente, vabbè. Gabriele, non ho capito che vuol dire. In teoria Berlusconi, diciamo, fare cose concrete. Fare le cose concrete, appunto. Lui va a Napoli, no? È andato 2 anni fa, no? Ma quello è governare, poi uno può dare un giudizio, male, bene, quello che è, ma quello è governare. Formigoni, lei quante ore dorme a notte? 6 ore. Poco più di Berlusconi dunque, 2 ore di più. Sì, questo è il tempo che mi è sufficiente, l'altra parte di più non riesco a dormire, dopo 6 ore mi alzo. Oggi Berlusconi ha detto 4 ore, poi 20 incontri quotidiani e 52 telefonate. 52 è tanto poco, che media è, Formigoni? 2 telefonate al giorno è un buon numero di media, ma vede, voglio dire, l'importante è, cioè, non è quantificabile in anticipo, tanti incontri possono essere fatti de visu, altri richiedere delle telefonate. Governare è un'arte complessa, è garantire che le cose funzionino meglio. I metodi sono tantissimi: incontrare persone, ascoltare, fare direttive che vadano nella direzione giusta per riformare le cose che non funzionano. Certamente Berlusconi è uno che ha una giornata di lavoro molto intensa, questo tutti i suoi collaboratori e chi ha occasione di frequentarlo lo vede, poi ognuno è libero di giudicare i risultati governi Berlusconi, io li giudico positivamente, altri possono giudicarli in maniera critica, ma che Berlusconi si impegni personalmente anche con una grande quantità di lavoro intellettuale e fisico è fuori di dubbio. Senta, ma questo terzo polo lei non ci crede tanto, nonostante che insomma ci sono molti ex democristiani o nel terzo polo, però lei non ci crede tantissimo, mi sembra di capire. No, non ci credo perché gli italiani sono diventati bipolaristi, non è soltanto il sistema politico che è bipolare, gli italiani preferiscono essere loro con il loro voto a decidere chi sarà il capo del governo, ecco perché sulle schede troviamo scritto Berlusconi piuttosto che i suoi competitori, Formigoni piuttosto che i suoi competitori, quindi vogliono decidere il capo del governo, vogliono decidere la coalizione che governa, quindi è giusto il premio di maggioranza, perché se uno schieramento da solo non raggiunge la maggioranza assoluta, ma raggiunge la maggioranza relativa, è giusto fargli raggiungere la maggioranza assoluta. Vorrebbero anche poter scegliere con un voto di preferenza il loro deputato e senatore, così come scelgono il loro consigliere. Lei è d'accordo sul ritorno tu cura alle preferenze oppure un sistema un po' misto? Una preferenza. Come d'altra parte previde il referendum del 93, in cui a larghissima maggioranza gli italiani dissero andiamo al sistema elettorale a una preferenza. Poi fu tolto il voto di preferenza, ma gli italiani avevano detto una preferenza, perché gli italiani vogliono poter tirare per la giacchetta il loro deputato e il loro senatore e dire adesso mi spieghi perché hai assunto quella posizione, oppure fatti carico di questo problema e di quest'altro. Quindi la legge elettorale, a mio avviso, va riformata solo in questa direzione. Reintroduzione non del voto di preferenza, ma di un voto di preferenza, così come avviene, ripeto, già nei sistemi per l'elezione regionale e comunale. Senta, un minuto per un'ultima domanda ed è questa, ma si parla molto di un possibile allargamento della maggioranza, lei in più interviste ha detto di essere favorevole a questo allargamento, vabbè, insomma, d'altra parte è abbastanza normale, però qui c'è un gioco un po' delle parti, perché l'UDC dice di voler rimanere fuori dal governo, Berlusconi insiste, come va a finire, Formigoni? Cioè non c'è chiarezza in questa situazione, cioè, l'invito di Berlusconi e la posizione del PDL è molto chiara. Quelli dicono no, noi non c'entriamo. Siamo disposti a allargare la maggioranza che sostiene il governo e contemporaneamente ad allargare il programma del governo stesso, cioè ad accettare degli apporti da altre forze politiche che entrino con noi in maggioranza, magari entrino anche nel governo se lo ritengono opportuno, oppure si limitino ad un apporto, ma discutendo con noi gli obiettivi da realizzare. Questa mi sembra un'offerta molto chiara. Evidentemente mi auguro che forze di centro, a partire dall'UDC, accolgano questa proposta. Se così non sarà, vedremo se singoli deputati accoglieranno questa proposta e andranno a ingrossare le fila della maggioranza. A quel punto, fine gennaio, prima settimana di febbraio, tireremo le somme. Se la maggioranza nuova sarà sufficientemente forte da garantire una navigazione serena per il resto della legislatura, si proseguirà. Altrimenti, con rammarico, ma sarà meglio andare alle elezioni anticipate perché un governo che galleggia non fa bene all'Italia. E dunque una previsione, quando si vota, Formigoni? Quando si vota? Secondo me si può andare avanti fino alla fine della legislatura. Sarebbe la soluzione preferibile, perché in questo momento, con l'euro sotto minaccia, tutti i paesi europei e anche l'Italia hanno bisogno di governi stabili, capaci di prendere decisioni in pochissimo tempo. Eccoci qui, la pubblicità ci ha tranciato, ultimi secondi con il presidente, eccetera, eccetera, protagonista della vicenda di Ruby Rubacuori. Si vede, lavora, frequenta? Si vede, lavora, frequenta, partecipa ai lavori di una commissione. Tutto regolare. Non dimentichiamo che igienista dentale vuol dire comunque una persona laureata. No, beh, certo. Una persona che ha una cultura. No, sta svolgendo bene e assiduamente il suo lavoro di consigliere regionale. Tutto regolare, tutto nella norma. Il consiglio regionale, tutto regolare. Tutto regolare. Senta, e invece il signor Bossi... Renzo Bossi? Renzo, anche lui tutto... Anche lui è un tipo molto vivace, come giustamente la sua età gli suggerisce, ma è anche capace di prendere iniziative politiche, proposte. Per esempio? Stanno facendo le ossa, sono nuove generazioni che si stanno facendo le ossa. Magari no, beh, nel caso di Bossi non si può dire perché le preferenze le ha prese. Nel caso della Minetti magari ogni tanto passare così, farsi votare non sarebbe male, però là c'è il listino, il famoso listino. È stata comunque eletta, eletta insomma, sì. E adesso si sta guadagnando la pagnotta politica, ripeto, con un lavoro comunque assiduo e diligente in commissione e in consiglio. Senta, va bene, la ringrazio. Dunque, al nome ci pensa lei, ci pensa anche lei al nome, ci sta pensando nome anche ci lei. Penso anch'io. Ci sta pensando. Le idee ve le faccio sapere. Bene, grazie. Okay, buona serata, grazie. 20 e 2 minuti, 800 24 00 24. Andiamo a sentire i titoli, dalla 7 non ci sono ancora. Bene, stasera va così. Federico da Milano. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo farle questa domanda. Allora, in merito agli studenti che sono andati a parlare ieri da Napolitano, perché le trovo una forma, secondo me, sbagliata scelta da parte di Napolitano? Perché, cosa voglio dire io? Questi studenti qua non li ha votati nessuno studente, non rappresentano nessuno. Io sono stato consigliere di facoltà alla Stadio di Milano, a giurisprudenza, senatore accademico a giurisprudenza, ho degli amici che si sono stati eletti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il cosiddetto CNSU, che è l'organo nazionale di rappresentanza degli studenti, e sono stati eletti da 200.000 studenti. Questi organi di rappresentanza studentesca esistono veramente, e questi appunto persone che li rappresentano devono parlare loro con le istituzioni, non questi sedicenti nuovi panterozzi o non so come si chiamano, collettivi o figli di papà, perché non è giusto. Questi qua bypassano quello che è il sistema della democrazia, ovvero questi qua cosa fanno? Vanno direttamente con violenza, perché bypassare il sistema democratico, andare a parlare direttamente con le istituzioni è violento. E secondo me Napolitano ha dato un cattivo esempio, perché Napolitano andrà a parlare con i rappresentanti del CNSU, non con questi sedicenti personaggi che non rappresentano nessuno. Io ho in mente... Ma io non so chi rappresentano, Federico, ho il vago sospetto che non rappresentino poi nemmeno la rappresentanza universitaria, che già è poco rappresentativa dell'università. Però non lo so, è una mia impressione, non ho approfondito la questione su chi rappresentano questi. Ripeto, l'impressione che ho è che sono quelli più attivi, ecco, sono quelli che fanno più cacciara. Sono quelli che hanno più più risonanza mediatica, e questo secondo me mi dà fastidio, perché gente non rappresentano nessuno, sono la stragrande minoranza, perché quelli, gli studenti sono quelli che per definizione studiano, gli studenti, quelli che occupano sono occupanti, quelli manifestano sono manifestanti, quelli che studiano sono studenti, se non sbaglio. Per cui quello che a me dà fastidio è che questi qua rappresentano nessuno e hanno un potere mediatico esagerato. A me succedeva lo stesso quando ero in senato accademico, che noi facevamo, ci sbattevamo per prendere preferenze, per essere eletti, per parlare della nuova riforma Moratti, perché allora c'era il 3 più 2 anche a giurisprudenza, per cui capire... E allora? Cosa per cui, però noi, tra virgolette, non ci ascoltava nessuno, non avevamo alcuna risonanza. Questi qua occupano, fanno casino, andavano a fare direttamente il correttore, hanno dei canali preferenziali. Per cui secondo me ci sono due realtà studentesche in Italia, per cui ci sono alcuni studenti... Cioè, quelli che si fanno, quelli che fanno più casino, quelli che sono più presenti sui media, eccetera, e gli altri che invece... Io vorrei capire lei perché è così. Io ho una mia idea, che forse gli spiego, magari è sbagliata. Io ho in mente, magari un esempio sbagliato, però quando io ero in università, faccio nome e cognome, c'era un certo Gigio Moratti, che era il figlio di Massimo Moratti. Ma adesso che c'entra, scusi. Quando c'era la riforma della Moratti, lui andava ad occupare la statale a protestare contro la zia. Io ho in mente che gran parte di questi qua che io conosco sono figli della Milano Bene, sono figli di gente che ha il potere vero, per cui secondo me hanno molto più potere di noi gente normale, che non abbiamo figli, non siamo figli di nessuno, voglio dire. Per cui secondo me loro sono gente che fanno magari le occupazioni a 20 anni, poi dopo magari vanno a lavorare nell'azienda del padre, poi magari vanno a lavorare nei giornali. No, ho capito. Va bene, grazie Federico. I titoli della 7. Berlusconi contro la Corte Costituzionale, organo politico, e avverte: se la legge sul legittimo impedimento sarà bocciata, mi difenderò in tribunale da accuse ridicole. Poi chiede una commissione sui PM eversivi. Il PD, parole gravi, il CSM, basta aggressioni alle toghe. Duello infinito tra il Presidente della Camera e il Premier, che accusa Fini non è super partes. Gli rinfaccia l'incontro a Montecitorio con alcuni onorevoli per convincerli a votare contro il governo. Replica al curaro di Bocchino: lui pensi piuttosto a chi riceve nelle sue residenze private. Allarme pacchi, bomba nelle ambasciate a Roma di Svizzera e Cile. Gli ordigni esplodono e feriscono due persone. Un addetto alla sede diplomatica elvetica operato rischia di perdere una mano. Le indagini puntano sulla pista anarchica, uno dei plichi spedito dall'Italia. E la riforma dell'università è ora legge. Via libera del Senato dopo una lunga maratona. Futura Libertà vota con la maggioranza. L'UDC si astiene, contrari PD e Italia dei Valori. Nei prossimi 6 mesi tutti i decreti attuativi, assicura il ministro Gelmini. Fiat, sindacati, meno la FIOM, siglano l'accordo su Mirafiori, quindi non firmando non avrà rappresentanza nello stabilimento torinese l'emanazione metalmeccanica della CGIL, che attacca: cancellati 20 anni di relazione industriale, a gennaio referendum tra i lavoratori. Caso risolto, assicura Palazzo Chigi. La Prestigiacomo, che ieri aveva annunciato lascio il partito ma non il governo, torna indietro e resta nel PDL. È un po' quello che era già successo alla Carfagna. Va di moda forse questo modo di dimissionarsi fino a un certo punto. Dopo appena 6 mesi, un mondiale per club appena vinto, accordo fatto sulla separazione consensuale. Benitez non è più l'allenatore dell'Inter, che si prepara ad accogliere Leonardo, ex milanista. Allora, fioccano le proposte sui nomi che vengono dagli ascoltatori. Qualcuno insiste sul nome Italia, dunque Italia nel cuore, Italia sempre, fiducia Italia. C'è chi propone una parola singola, libertà, però è abbastanza vicino a futuro e libertà. Un altro, Marco da Roma, propone vittoria. Io lo trovo un bellissimo nome, Vittoria. Bellissimo nome di donna. Bene, 800 24 00 24. Dove andiamo? Direi Antonino da Padova, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Allora, io è da ieri che ci penso al nome da dare al partito del nostro presidente. Allora, scartato BLI ed SC, rispettivamente Bungalow Italia e Silvio C. Ho optato, ma ho proposto anche il logo, Il logo sarebbe questo, lei immagini un sorriso a 32 denti tipo gatto del Cheshire, stregato di Alice nel Paese delle Meraviglie. È presente? Sì, sì. E allora? Di traverso tre anelli, rosso, bianco, verde, quello in mezzo spezzato. E poi scritto, Silvio Libero. Vabbè, ho capito. Lo regalo al presidente, spero lo gradisca. E speriamo che Formigoni non si arrabbi, perché sa, ogni tanto anche i formigoni si arrabbiano. Va bene, grazie Antonino, pubblicità, torniamo subito. Poi Giovanni da Cremona, Giulio da Roma, Domenico da Milano e altri ancora. 800 24 00 24. Siamo qui alle 20:11. 800 24 00 24. Giulio da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera Cruciani. Anzitutto buon Natale. Grazie, buon Natale anche a lei. Dico buon Natale anche perché sono un prete e credo che sia cosa buona e giusta ricordarlo questo appuntamento. Le volevo dire, io sono in macchina da un'ora, un'ora e mezza e sì, ho sentito prima l'intervento, la domanda che ha posto Luca Telese al nostro Presidente del Consiglio. Non voglio adesso dire, le parlo con il cuore aperto. Come prete credo che non posso essere partigiano, devo fare il prete di quelli di destra, di centro e di sinistra. Però credo che comunque sia importante una riflessione. Perché vede, a me quello che preoccupa è che per quanto concerne la questione etica, morale, le nostre classi dirigenti, indipendentemente dai colori di appartenenza, quelli dell'arcobaleno, mi pare che non diano buon esempio. Adesso guardi, io non credo che sia giusto fare di Berlusconi un capro espiatorio, non credo che sia corretto, anche perché sappiamo che il manicheismo, dividere il bene dal male, non ci porta da nessuna parte. E allora? Vi sono responsabilità condivise. Certo, il discorso di fondo è questo. Io ho vissuto molti anni all'estero, perché sono anche un missionario, e le dico, quando c'è uno scandalo in un qualsiasi paese, dall'Inghilterra agli Stati Uniti alla Germania, ci si rimette subito, ma quando c'è uno scandalo... Dipende che scandalo, naturalmente. E addirittura se esce fuori che la moglie di un ministro ha viaggiato in aereo, il ministro si dimette. Ma guarda, insomma, dipende. È documentato, adesso su questo sono stati versati ettolitri d'inchiostro. Sì, no, non mi voglio mettere a polemizzare, le dico solo una cosa. No, vabbè, ma qual è il riferimento, scusi? No, il riferimento è questo. Prima Telese ha fatto tutta una lista vero di fattarelli che... Carità, sì, la vicenda poi... di Bondi, la vicenda della Brambilla, eccetera, esatto, eccetera. Esatto. Sì. Ma adesso voglio dire, credo che sia giusto anche quello che ha rilevato il nostro Presidente del Consiglio. Diceva, guardate, non è un problema che riguarda solo noi, ma riguarda anche gli altri. Va benissimo, d'accordo. E allora io credo che da questo punto di vista, se questa è la nostra classe dirigente, che me lo lasci dire, è un po' la cartina al tornasole del bel paese, cosa vogliamo poi dagli italiani? Cioè, in sostanza, io credo che questi signori si debbano mettere in testa, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza, che sono sacerdoti, e non lo dico per deformazione professionale, sono sacerdoti della res pubblica, e da questo punto di vista devono essere dei modelli anche rispetto alle giovani generazioni. Guardi, questo è un tema, a mio avviso, che dovrebbe essere approfondito ulteriormente. Mi rendo conto che il tempo è tiranno, quindi mi fermo qui. Grazie. Grazie a lei di questo intervento. Matteo da Prato, buonasera. Buonasera, dottor Cresciani. Dica. Volevo proporre una cosa, proporre più che altro, discutere una cosa. Che cosa pensate della pseudo-alleganza che secondo me si formerà tra Berlusconi... Pseudo? E scusi, pseudo? Pseudo-alleanza tra Berlusconi e Matteo Renzi, di questi colloqui che stanno avvenendo. Ma è colloqui che stanno avvenendo, cioè Renzi è andato a trovare Berlusconi, ne ha parlato Berlusconi l'altra sera a Matrix dicendo di aver avuto una buona impressione da Renzi, la stessa cosa ha detto Barbara Berlusconi, mi pare una cosa positiva. C'è simpatia? Sì, no, mi pare una cosa positiva il fatto che ci sono non ci sono pregiudizi né da una parte né dall'altra, mi sembra. Quindi questo mi pare. Sì, appunto. Non, Non penso che però il partito di Matteo Renzi gradisca molto questa cosa. E infatti gli fanno un po' la guerra su questa cosa qui. Basta andare a trovare Berlusconi perché diventi immediatamente simbolo, comunque complice del male. Ma Renzi fa il mestiere suo, cioè va come sindaco a trovare Berlusconi, poi c'è anche la figlia, eccetera. Poi Berlusconi spende questa cosa in un modo che magari Renzi non gradisce, ma questo è un altro discorso. Insomma, Renzi sa cosa aspettarsi. Spero che abbia fatto che appunto non cominci a derapare anche lui su un anti-berlusconismo di maniera. Mi pare una cosa, mi sembrano tutte cose positive. Non c'è un'alleanza Berlusconi-Renzi, trattasi di un sindaco di Firenze, emergente, il quale va a trovare Berlusconi per una questione di soldi che riguardano Firenze, anche perché è molto attivo, perché uno un burlone da un certo punto di vista, uno che ama farsi vedere in giro, che ama apparire, quello che vogliamo, cose che normali per la politica. E niente, insomma, trovo le critiche folli, completamente fuori da ogni logica, non le capisco, le critiche a Renzi, non mi pare, cioè il fatto che ci sia una persona, credo come Barbara Berlusconi, nell'intervista a Vanity Fair, ha detto io uno come Renzi lo voterei pure, dovrebbe essere positivo, perché il Partito Democratico per allargare il suo consenso, il centro-sinistra, deve andare a pescare quei voti lì, quei voti diciamo di persone che non voterebbero mai nessun altro candidato. E questo è il punto. Quindi che non vediamo dottor Cruciani, vediamo l'outsider del PD Renzi a Roma un domani. Ma io credo che in questo momento, questo lo dicono tutti, non è che lo dico solo io, lo dico da mesi, cioè, credo che se c'è una persona in grado di competere a livello mediatico, a livello di novità, questo è Matteo Renzi. Traffico, torniamo subito con Vittorio Sgarbi. Vittorio? Ecco. Dove sei? Sono a casa di Frigerio a Milano. Casa di Frigerio a Milano, ma oggi non era un ricevimento dal Presidente della Repubblica, o sbaglio? No. No, ieri, oggi, quando era? Mi hanno detto, no. Mi hanno informato male. Mi hanno informato male. Vabbè, come la mettiamo con queste donne del PDL che fanno un po' le bizze? Poi rientra tutto. La presti Giacomo, prima dice di uscire dal PDL e andare al gruppo misto, poi forse rientra. Miccichè dice che forse no e la vede più vicina al suo movimento. Che succede? Ma siamo in diretta già? Certo che siamo in diretta. Vedi, allora no, perché tu fossi... No, vediamo, ho scritto oggi l'articolo che è uscito sul giornale racconta la storia di queste donne per cui io propongo la separazione delle carriere. Cioè? Il tema fondamentale di Berlusconi, la separazione delle carriere dei magistrati, è dividere la funzione inquirente e quindi del pubblico ministero da quella del giudice. La separazione delle carriere è che quelle che fanno una carriera legata alla loro bellezza, con qualunque destino abbiano, non devono diventare ministre. Non è obbligatorio che ci sia un passaggio dall'essere gradite a uno o all'altro, che sia Veltroni, come in qualche caso è stato, che sia Berlusconi, come è stato in modo anche più risentito, e quindi che dal piacere a questi debbano diventare ministri. Insomma, non riesco a capire che come si possa fare ministro la Carfagna e la Prestigiacomo e la Brambilla. Cioè una cosa in... Beh, però distinguiamo, cioè, adesso la Prestigiacomo non penso che abbia avuto qualcosa a che fare con Berlusconi. No, perché senso, è stata quando fu chiamata la prima, entrò in Parlamento. Fu nominata subito Miss Parlamento. Intervistarono me e dissi: ma a me non sembra particolarmente sexy, e questo determinò un certo disappunto da parte sua, perché lei era entrata in Parlamento avendo come idolo Sgarbi, cioè lei vedeva, sono delle vecchie interviste della Gelmini, sì, della Prestigiacomo, che vedono Sgarbi come il loro uomo ideale. Dice: lei con chi andrebbe su un'isola deserta? Domandano la Gelmini, con Sgarbi. E la Prestigiacomo dice: il mio... Però poi io le ho deluse tutte, nel senso che... Ma non hai avuto storie con nessuna di queste? No. Ma non mi piacevano poi dal punto di vista fisico in maniera speciale, neanche la Prestigiacomo. Ne vedevo la avvenenza naturale. Beh, la Carfagna, la Carfagna è diversa. La Carfagna neanche lei mi è mai piaciuta. Però certo è una bellezza più evidente, insomma, anche se la cosa più clamorosa è nel rapporto tra la Prestigiacomo e Fini. Sì, ma tu secondo te è vera quella storia? No, non credo che sia vera, ma è indifferente, perché nessuna storia è vera se non è dichiarata da entrambi. Non è vera, sì, è vera. Questo non è vera, quindi diciamo che non è vera e non sarà vera. Però quando gira, lui dice: sono indignato. Come sono indignato? Deve essere lusingato, non indignato. Non è vero, ma sono lusingato. Beh, era sposato all'epoca. Perché anche se era sposato, che vuol dire? Cioè, l'attribuzione di una donna così bella non può che essere ragione di compiacimento per un uomo. Soltanto un uomo astratto che non sa, non conosce la materia, come si è visto dalle scelte poi che ha fatto, può dire della Presti Giacomo: sono indignato. Che indignato? Quindi i due comunque avevano una qualche amicizia. Sì, e anche sì. Lei c'è ancora del finismo. Se è vero che eletta nel PDL, a un certo punto fa questa dichiarazione: rimango ministro e me ne vado dal PDL. Ma a che punto siamo? Ma c'è mai visto un ministro democristiano che se ne va dalla DC e rimane ministro? E rimane ministro. Questi qui non conoscono la grammatica, devono andare all'asilo, devono studiare, cominciare, cioè questi qui. Ma la Carfagna, lei, la Brambilla ha un popolo di cacciatori. Fa la campagna contro la caccia. Contro la caccia, tutti del PDL sono a favore. A un popolo che ha il suo simbolo più alto nel Paglio di Siena, fa la battaglia contro il Paglio di Siena. Ma questi sono tutti, a parte qui c'è la comica, poi Berlusconi aveva delle donne talmente rompipalle che non sapeva come frenare la loro ibris di andare dalla vita, dalla strada, dalla dimensione privata sì. alla dimensione pubblica. Quello è il nodo, allora, no? Sì, allora c'era un ministero abolito e inesistente, mentre il Ministero dell'Agricoltura fu abolito con referendum, ma è nato come politiche agricole. Sì. Il turismo è stato delegato alle regioni, non c'è. Lui ha avuto il genio, il colpo di intuizione, di nominare un ministro per un ministero che non c'è, il Ministero del Turismo, è meraviglioso, quindi c'è un ministro senza ministero. Poi c'è un altro ministero inutile, già il numero dice, attuazione del programma, dato a un ministro la cui natura... Rotondi, però non mi toccare Rotondi, che è simpaticissimo. Ma è un ministero, così come andare a prendere il caffè. Cioè, che cosa è la passione del programma? È qualcosa che interferisce su ogni ministero. Vabbè, tu hai fatto l'assessore all'ebbrezza, sì, Morgan. Ma infatti, quello era un uomo ebro. Un uomo ebro ed è un uomo che prende le droghe, quindi da ogni punto di vista corrisponde. Ma l'attuazione del programma tutti la possono fare, meno che il ministro dell'attuazione del programma. Ognuno fa atto del suo programma. Uno vigila, la macchina fa due telefonate. A che punto è il programma? Se non lo so, te lo dico domani. A questo punto ha avuto bisogno di un sottosegretario del programma, la Santanchè, un'altra che senza ministero sapeva non poter vivere. Quindi anche lì lui, premuto da queste, da loro dei ministeri assolutamente inventati. Cioè il punto è che queste qua premono su Berlusconi. Premono, martellano le palle in maniera inverosimile, io lo capisco, torturato, alle palle torturate, a martellate quotidiane di queste. A questo punto, per togliersele dalle palle, e finalmente sarai ministro del turismo, si dimentica di dire che non c'è il ministero. Poi questo effettivamente anche con il bilancio ha dovuto fare dei buchi, sì, che molti non ha voluto coprire o che copre con difficoltà rispetto a un bilancio che non c'è. In attuazione del programma non esiste programma, non esiste attuazione, non esiste, ognuno se vuole se lo attua per conto suo, e il sottosegretario dell'attuazione del programma non è una presa in giro. E poi ci sono le pari opportunità della Carfagna. Le pari opportunità sono un'altra delle idiozie di un mondo, le uniche opportunità buone sono le dispari opportunità. Cioè, non, chi se ne fa delle pari opportunità? Ma quando mai? La diversità è un valore, non le pari opportunità. Pari opportunità di che? Le pari opportunità, poi una che si sta in un partito cattolico, che sta dalla parte della Chiesa, che si alza la mattina e diventa il simbolo e l'icona gay, perché, ma io non lo so, una cosa inverosimile. Poi non contenta di questa sua uscita in cui manifesta l'opposto della linea prevalente del suo partito, dice: me ne vado dal partito, dal Parlamento e anche dal ministro. E poi rimane. Vabbè, rimangono... Ha inventato la formula che io ho chiamato nazzicata, che è la processione del Venerdì Santo a Taranto, per cui fai un passo avanti, due indietro. Cioè è l'unica che se ne va restando. Se io me ne vado, però resto ministro. Era bene che la vignetta di Giannelli che diceva: me ne vado perché non mi dimetto dal partito perché non mi piace l'ambiente. In realtà è quello che ha tenuto, l'ambiente l'ha tenuto, ma non mi piace l'ambiente perché è un ambiente. Quell'altra accusava il povero Cirielli, che non ha mai avuto neanche mezzo filtro di garanzia ed è un colonnello dei carabinieri. La Carfagna. Questa qui invece non le piace. Ma come si possono riassumere tutte queste cose? Con l'ormone? Andare a casa, hai l'occasione di fare, non dico un rimpasto, un altro governo. Tutte a casa. Un governo di, di anime nobili, belle, bruttissimi, dei mostri. Dei mostri assoluti. Dei mostri che pieni di talento, capisci? E le ragazze le mandi così a fare delle belle passeggiate, a vedere, invece che a fare il distruttivo, le mandi a fare le turiste, no? Dicono che tutti quanti dicono, beh, però sono brave, però non sanno mai dire perché. Poi dicono, però è brava. Ma meno che brava. Allora, per quello che riguarda la questione del turismo, non si vede traccia di turismo in Italia, anche perché non essendo sul ministero, il potere di lei è nulla, è zero, è zero, sì, zero totale. Sì. In compenso si occupa molto di animali e di Palio di Siena, questa è un'altra cosa. E dell'ACI, pare dell'ACI, di piazzare qualcuno all'ACI anche, pare, di piazzare familiari e vari all'ACI. Questa è la cosa meno grave, cioè che uno mette a posto in fondo, siccome sono tante le famiglie, almeno qualcuno è sistemato. Beh, anche Bondi, da quel punto di vista ha fatto. Mi pare più grave che si occupi del Palio di Siena, cioè uno che si occupa di turismo deve volere 8 pagli, non ridurne i 2 che ci sono. Sta alle pari opportunità. Che meglio essere gay che guardammirare le belle donne, cioè questo è il ribaltamento del concetto berlusconiano. Gliel'ho spiegato, puoi dirlo anche tu, dico, perché siccome ognuno di noi ha una parte omosessuale, la mia è lesbica, la mia quota omosessuale è lesbica, quindi puoi dire benissimo meglio gay che eterosessuali. E da questo punto di vista la Carfagna ha aperto la strada. L'altra io l'ho invitata quando è venuto a Palermo Giacomo, per parlare di paleoliche e indicare in anticipo la violenza con cui si distrugge il paesaggio e la mafia, che ha detto queste cose, ha detto guarda, non farmi venire perché io non sono competente. Ma come non sei competente? Perché la Sicilia è una regione autonoma, lei è siracusana, ma non è venuta perché il Ministero dell'Ambiente non può arrivare fino alla Sicilia. È una cosa inverosimile, cioè dico, io non solo non ho fatto la sacrosanta battaglia contro le paleoliche, d'altra parte non la fa neanche Settis, questi qui sono convinti che il paesaggio vada difeso, non so come, la più violenta delle azioni fatte contro il paesaggio è questa, ma lei non ha voluto venire dove c'era il presidente emerito della Repubblica Francese perché non voleva compromettersi in una questione su cui evidentemente aveva diverse questioni che non riguardava comunque tutte a casa, la cosa è tutta a casa, tutte a casa, approfittando di questo momento straordinario in cui ma Barbara Berlusconi invece come la interpreti questa sortita di Barbara? Cioè lei invece è diversa da Barbara Berlusconi ministro, no? Va fatta, sì, ministro della famiglia. Questo è perfetto. Barbara Berlusconi. No, in realtà le soluzioni che Berlusconi potrebbe adottare sono formidabili. Alla giustizia va bene che c'è l'ottimo Alfano, ma c'è un ministro che sembra fatto apposta perché Berlusconi possa andare tranquillamente in vacanza e chi è? Pannella. Pannella sarebbe un casino tremendo con la coda di cavallo, Vittorio, con la coda di cavallo. No. La giustizia, separazione delle carriere, moratoria. Sì, ma in teoria invece è casino, è caos totale. Te lo immagini, Pannella lì, ma uno show tutti i giorni. Non è casino adesso, non è. Adesso c'è Alfano che fa quello che deve fare. Insomma. Alfano lo manda agli interni, Maroni lo manda al presidente della Camera. È tutto disegnato, io ho un mio governo. Però per le ragazze si fa la prima applicazione di separazione delle carriere. Le ragazze, se sono belle ragazze, quindi non vanno al governo. Cioè, se una è bella, non va al governo. È bella, quindi può essere utilmente, può introdurre, può insomma ricevere, può fare stare al cerimoniale, può tenere a posto le case del premier, può. Però niente governo. Tutta l'attività sociale, la Croce Rossa, diventare presidenti della Croce Rossa, presidenti dell'Associazione di San Vincenzo. Ma ci sarà pure qualcuna bella nel PDL che è anche brava, per esempio? Bella e brava, capace, intelligente, ci sarà pure. Tutte sono belle e brave, tutte. Non è che io non ho negato che siano brave, dico non devono fare le ministre. Ho capito, ma ci sarà qualcuna in grado di fare ministra? Ne conosci qualcuna bella e anche in grado di farlo nel PDL? Ci sarà o no? No. Beh, bella e brava per fare. No, non ti viene in mente. Non mi pare. Poi non credo, sia il problema è quello che sembra necessario che una donna debba fare il ministro, ma non è detto. La scuola è piena di donne. Senti, prima della pubblicità, il nome nuovo, Berlusconi sta cercando un nome nuovo per il PDL, che consiglieresti tu? Per il PDL? Lo sai che sta cercando un nome nuovo, no? Sì, da tempo lo so. L'unico possibile sono io, non ce n'ha un altro. Sgarbi, hai già provato a fare Sgarbi. No, nome nuovo al partito invece del PDL per sostituire il Popolo della Libertà. Io sono come primo ministro. No, vabbè, tu lo so che sei in grado di fare tutto, che c'entra? Come primo ministro mi sentivo adatto. No, il nome nuovo va ricercato fra i nomi antichi, quindi deve essere Forza Italia. Forza Italia sarà il nome del programma televisivo che farò io, Forza Italia, per si può richiamare. Ma come va avanti o no? Dopo me lo racconti. Sì. Pubblicità. Veloce carrellata. puntata di giornata prima di tornare con Sgarbi da Casa Frigerio qui a Milano, 20:34 800 24 00 24, e andiamo con Brunetta, il quale un po' misteriosamente parla delle forze oscure della reazione in agguato, chiamandole Fodria, una cosa dell'altro mondo, per identificare le forze che agirebbero contro il governo Berlusconi. Brunetta. E non sarà un caso che si stiano coalizzando, e uso anche qui un termine che ha un po' di storia, le forze oscure della reazione in agguato, il Fodria. Le forze oscure della reazione in agguato sono quelle forze che stanno reagendo a questo processo modernizzatore di cambiamento che noi abbiamo realizzato. Beh, conoscendo qualcuno che lavora con Brunetta, spero che questa cosa del Fodria, le forze oscure della reazione in agguato, non sia... non venga da queste persone qui, perché insomma, Fodria, forze oscure della reazione in agguato, va bene. Berlusconi, Barbara, per le cose che ha detto su di me, c'è la debolezza, la mia vita privata, le donne, influenzata dalla madre. Ma lei non crede di dover dare delle spiegazioni agli italiani su questa debolezza che secondo sua figlia hanno inciso sulla vita pubblica? Non c'è stata nessuna debolezza, naturalmente i figli sono influenzabili dalle madri, e quindi anche nelle famiglie, in tutte le famiglie ci possono essere situazioni di questo genere. Io voglio molto bene a Barbara, è molto brava, eccetera, eccetera, ma evidentemente in questa situazione ha subito delle influenze. Va bene, che c'era da mettere poi, da far ascoltare di oggi? Bocchino, Bocchino è tornato a parlare dal sito di Generazione Italia sulle ipotesi di Fini, di missioni o comunque discussione sul ruolo di Fini. Cosa imputano a Fini? Meglio ricevere Guzzanti che ricevere altre persone nelle case private? Vabbè, il moralismo di Bocchino, sentiamo. A Fini che cosa gli si imputa? Di aver ricevuto nell'appartamento privato di Presidente della Camera un deputato autorevole, importante come Paolo Guzzanti? Beh, meglio ricevere Guzzanti nell'appartamento privato da Presidente della Camera che ricevere altre persone che gli italiani sanno nell'appartamento privato del Presidente del Consiglio. Devo dire che in realtà questo Fodria, come mi segnalano, c'è un articolo di oggi, tra l'altro, da cui credo che abbia preso spunto Brunetta stesso, sull'opinione di oggi, che recita più o meno così. Negli anni 50 si parlò in Italia con molta insistenza del cosiddetto Fodria, era la sigla che designava misteriose forze oscure della reazione in agguato che complottavano per abbattere la giovane democrazia italiana e instaurare al suo posto una dittatura di destra. Ne facevano parte, almeno così si diceva, rimasugli della Repubblica di Salò e generali a riposo del Regio Esercito che avevano prestato giuramento a Sua Maestà. Era un'autentica favola di cui i comunisti di casa nostra però fecero tesoro incitando i loro iscritti alla vigilanza proletaria. Beh, però era una favola, insomma. Vittorio? Eccolo qua. Eccoci qua. Allora, hai sentito Bocchino? Sì, meglio frequentare Guzzanti che altre persone. Vabbè, ma insomma, questo chiacchiericcio quotidiano, no? È caduto Sgarbi nel frattempo, ma insomma, fa parte anche qui della normalità. Giovanni da Cremona, prego. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Io dormo sicuramente meno di Silvio Berlusconi e Roberto Formigoni perché sono così spesso a mezzanotte a sentire le repliche della Zanzara. Vabbè, ma insomma, adesso la invito a dormire un po' più spesso e a saltare le repliche della Zanzara, cosa peraltro gradita, però insomma mi pare un po' esagerato. Senta, brevemente, smettiamola di buttare la croce sui vari scilipoti e razzi. Vi faccio presente una cosa: io, da grande amante dell'Alto Adige e osservatore delle cose, c'è una cosa fantastica che riguarda razzi, che pare sia partito per la Spagna per incontrare i figli per passare le vacanze di Natale, ha cambiato tutti i numeri del cellulare e ha consegnato un nuovo, gli hanno fatto uno scherzo alcuni deputati dicendogli che forse lo avrebbero nominato nei prossimi giorni sottosegretario. A questo punto lui, un po' ingalluzzito da questo, ha scritto il nuovo numero di cellulare. Qualcuno gli ha detto: beh, dai, se vai fuori dai il numero dove possiamo trovarti, magari pronto così a giurare davanti al Presidente della Repubblica, lasciaci un numero di telefono. E sembra che lui abbia detto a qualche deputato del PDL: ho un nuovo numero ma l'ho dato solamente a Verdini. E a quel punto, no, beh, lascialo anche ad Alfano. Pare che abbia lasciato ad un Alfano assolutamente basito, perché non sapeva il motivo, un bigliettino con il numero di telefono nuovo, numero di telefonino nuovo di Razzi. Alfano non capiva perché mi lasci questo numero di telefono, ma così, se avete bisogno di trovarmi in Spagna, vabbè, insomma. le cose comiche della politica, per cui è vero che è irrintracciabile, perché in realtà non ha più telefonino privato se non quello che ha dato a Verdini. Dovremmo chiamare Verdini per farci dare il numero di telefonino. Giovanni, prego. Comunque, tornando a cose più realistiche, da osservatore della politica del Sud Tirolo, se no Bolzano si arrabbiano se non lo chiamo Sud Tirolo. Vabbè, non si preoccupi adesso, Sud Tirolo, ecco, Bolzano. Le dico questo, l'SVP, il partito di raccolta sul tirolese, si è astenuto sia alla Camera che al Senato. Sì, perché ha ottenuto alcune cose sul Parco dello Stelvio, eccetera. Perché, guarda, ma almeno a me, io non mi scandalizzo, qual è lo scandalo in questa cosa qua? La gente si è scandalizzata, dov'è lo scandalo? Non è affatto scandaloso, dico che l'SVP, e questo lo riconosce anche la stampa locale, non è un partito ideologico ma è un partito pragmatico. Lo stesso presidente della provincia di Bolzano, che tra l'altro finché non deciderà di rimettere il mandato governerà a vita, Durnwalder, pochi giorni dopo il voto in Senato e alla Camera, si è recato a Palazzo Chigi e ha avuto queste concessioni, approfittando poi per andare a trovare anche l'altro Razzi, cioè il Santo Padre in Vaticano. Ho capito. È la politica. È no, la ma politica. Giovanni, guardi, non capisco queste critiche che ci sono state nei confronti della Sud Tirolo e Fox Partai, la quale si è astenuta in cambio di alcune cose concrete. Mi sembra... Io in Parlamento questi minoranze linguistiche le toglierei dal Parlamento, non servono assolutamente a nulla. Però la SVP però governa in tutto il Sud Tirolo, dove non riesce a governare per conto proprio, perché va ha bene, la maggioranza, ho capito, governa insieme al PD. Sì, sì, no, Giovanni, certo. Va bene, grazie. 800 24 00 24. Io, caro Sgarbi, innanzitutto proporrei nel futuro governo Sgarbi Piero Ostellino. Dove lo vogliamo mettere Piero Ostellino? Io lo possiamo mettere nel presidente della Camera o del Senato, insomma. No? Che dici, presidente? Oggi è stato splendido. Cosa dice? Positiva la riforma Gelmini, che limita il potere dei baroni a favore di chi studia, ma non ha snellito lo Stato né ridotto la pressione fiscale. Questo sul governo Berlusconi. Perché poi dà delle bastonate a Berlusconi pure, Non è che tenero nei confronti di Berlusconi, Ostellino. Vecchio liberale, indefesso liberale. È anche difficile governare, non è che, perché uno pensa che i soldi non finiscano mai. Il governo che pensano tutti è quello di un signore che abbia solo soldi da dare, invece essendo i soldi limitati, la distribuzione dei soldi è la più complessa delle operazioni di governo. Ma Feltri e Belpietro, come va a finire questa storia? È complicato, eh? Oggi già i primi fendenti, leggo sulla prima pagina del giornale: voi prendete finanziamento pubblico, non siete pagati da Berlusconi, però prendete finanziamento pubblico. Poi questa era il succo. C'è già polemica fra Libero e il giornale. Prima pagina del giornale di oggi: c'è chi è pagato da Berlusconi e chi è pagato dai contribuenti. Bisogna saper scegliere. In riferimento alla frase di ieri di Feltri, che ha detto: noi siamo berlusconiani senza essere pagati da Berlusconi. Belpietro. Sì, ma sono tutte cose, mi sembrano più pettegolezzi, sono più problemi di influenza. Se qualcuno che paga ci deve essere, no? Un giornale hanno un padrone, non mi sembra che ci sia bisogno di forzare Belpietro o Feltri a pensare quello che pensano. La funzione dei giornali è di trovare qualcuno che serva a sostenere le tue idee, non è il contrario, se non ti metti al servizio di uno che ti paga, è quello che paga che si mette nelle condizioni di amplificare il suo pensiero attraverso quello di chi fa il giornalista, no? Quindi non è che Feltri obbedisce a qualcuno, quindi è un percorso, la stessa cosa valeva per Montanelli, non, il giornalista di per sé è un uomo libero, non sempre riesce a manifestare la sua libertà, però non è che serve qualcuno, il problema è che esiste un sistema di produzione, e in questo caso come in un film c'è un proprietario di un giornale che mette i soldi per un'idea, se trova uno che quell'idea interpreta, se uno per esempio vuole sostenere un'idea liberale, libertaria della Chiesa, fare un giornale a Don Gallo, Don Gallo ha le sue idee, uno che finanzia Don Gallo, uno finanzia Travaglio, evidentemente ha le idee di Travaglio, no? Non mi pare così strano. No? Senti Vittorio, ma torniamo alla questione delle donne, ma nemmeno la Gelmini salvi? La Gelmini... Nemmeno la Gelmini. Ha fatto una cosa, è arrivata fino in fondo, naturalmente è arrivata fino in fondo con la tragedia di stare nella materia più, ma basta vedere come sono vestiti questi studenti, ma perché al Quirinale chiunque deve andare vestito in maniera normale, gli studenti devono andarci vestiti da studenti, me lo devi spiegare tutto il mondo. Sono andati vestiti lì con le scarpe da tennis, non delle scarpe normali, cioè, cosa dobbiamo recitare la parte degli studenti? Ora, il mondo della scuola è un mondo che va interpretato alla luce di quello che dice la Gadda, cioè di velleitarismi in cui bisogna diventare adulti interpretando, per cui qualunque riforma, la Gelmini ha fatto una riforma, sempre senza soldi, per cui, e questo è l'elemento negativo della insomma, dalle minchie, mancano i soldi, per il resto non è che abbia fatto. Poi come scrive Giovazzi sul Corriere della Sera, bisogna vedere i decreti attuativi, eccetera. Ma come è brava o no? No, è una donna. Rispetto alla Prestigiacomo, rispetto a. Allora, che ha un metodo, ma non è che per questo bisogna. Mi pare che abbia dato dei migliori frutti Benedetto Croce o Giovanni Gentile, insomma, no? Ah, vabbè, quello su quello. Sembra, quindi, su quello. I maschi di una volta si può fare di meglio, dici. Sì. Si può scegliere di meglio come ministro della pubblica istruzione. Potremmo avere Geminello Alvi, per esempio, esiste. Ah, magari. Ecco, Geminello Alvi, per cui lei è un buon ministro indicato da Berlusconi tra le persone di cui Berlusconi si fida. Se però il ministro debba essere qualcuno di cui Berlusconi si fidava anche della Carfagna e della Prestigiacomo, allora bisogna partire dall'idea che è meglio uno di cui non ti fidi. Meglio uno di cui non ti fidi. Beh, insomma, non è proprio nella... Molto meglio, se il ministro migliore è uno di cui tu non ti fidi, però che è un bravo ministro. Vabbè, insomma, il governo Sgarbi, che è il ministro, facciamo così: Sgarbi presidente del Consiglio, poi ministro degli esteri, chi farebbe Sgarbi? Beh, adesso è difficile così, l'impronta è così difficile. L'impronta, ma ministro degli esteri, vediamo, allora potrebbe essere Oliviero Toscani. Beh, no, Oliviero Toscani, c'hai pure litigato con Oliviero Toscani. No, sai. No, non sono litigato, mi pare un ottimo ministro. Oliviero Toscani, ministro degli esteri, si mette a ridere tutto il mondo, adesso con tutto il rispetto di Oliviero Toscani, mi sta simpaticissimo, però insomma una cosa che... Ma invece chi dovrebbe essere secondo te il ministro degli esteri? Ministro degli esteri deve avere caratteristiche di essere uno... Abbiamo potuto essere D'Alema e Fini, sono meglio di Toscani? Di Toscani? Non lo so, forse no. Forse, forse no. Però solo Fini è un ministro tranquillo, non è che abbia espresso una posizione. Quindi il miglior ministro degli esteri fino adesso è stato Berlusconi quando lo fece. Dici? Vabbè. Geminello Alvi al... Però ti hanno, adesso tornando a questo, ti hanno visto da qualche parte, mi avevo avuto questa notizia, accompagnato da una bella signora, sì, una bella ragazza, c'è stato un ricevimento negli ultimi giorni di qualcosa? Un ricevimento di questi qua che ci sono, Presidente della Camera, Presidente del Senato, no? Sei stato da qualche parte? No. Sono stato... Che poi questa qua è svenuta davanti a Veronesi, è possibile? Ah sì sì, da Napolitano sono stato. Ah, da Napolitano, non è svenuta quella che stava accanto a te davanti a Veronesi? Sì sì, è vero. È svenuta davanti a Veronesi e tutti i medici, perché era una cosa con molti medici. Ma chi era questa qua? La tua, non una che... Una ragazza con cui graziosa. Che si è molto bella. Molto bella, mi diceva, mi hanno detto, c'era una ragazza molto bella con Sgarbi che è svenuta e poi... Poi l'hanno baciata a farla resuscitare, poi l'hanno spinto un po' i seni per rigonfiarla e farla riportare. Tutti i medici hanno manifestato un affetto smodato per lei, che l'hanno rimessa in piedi. Ma com'è che è svenuta davanti a Veronesi? Questo non lo so, effettivamente. Chissà. Hai ragione, è un episodio straordinario, ma di cui non si è parlato. No, non si è parlato, sì, mi hanno raccontato a me che è stata anche una scena piuttosto, adesso non possiamo dire perché, ma insomma è stata una scena piuttosto... Sì, perché era senza mutande, sì. Come era senza mutande? Sì, quando si è ribaltata si è visto che non aveva le mutande. Ma come non aveva le mutande? Il Presidente della Repubblica senza le mutande? Perché mica si vedono le mutande, no? No, ma ho capito, Vittorio, ma com'è possibile questa cosa qui? Cioè, si è ribaltata, è caduta davanti a... È pieno di persone che vanno in giro senza mutande, no? Vabbè, ma è... raro. Bah. No, no, cioè, la mutanda è un indumento intimo. Beh, ho capito, ma al ricevimento del Presidente della Repubblica. Vabbè, ma sai, sei diventato moralista tu. Ma lo sapevi? No, ma perché... Ma lo sapevi? La Carfagna porta sempre le mutande, non so, dipende che... Ma lo sapevi tu? Lo sapevi che no, era senza... No, ma non so, ma non è che io vesto le donne, io le svesto semmai, no? Non è che le vesto. Bah. Quindi, quando una si veste, se poi si mette o meno le... Ma mutande, la cosa ha suscitato scandalo anche... No, niente. No, no, Veronesi se n'è accorto di questa cosa? Presumo, perché quando l'hanno alzato le gambe per rimetterla in piedi, le hanno alzate, distesa com'era, per riportarle il sangue alla testa, sì, le gambe sollevate hanno mostrato questo... particolare. Cioè scandalo al Quirinale, questo, cioè, scandalo al Quirinale. No, non c'era nessuno scandalo. Beh, insomma, c'è un piccolo scandalo che non è stato rivelato e che riveliamo qui, cioè persona che l'accompagnatrice di Sgarbi sviene al Quirinale ed era senza mutande, questa è una cosa clamorosa. Cioè, no, non è clamoroso, mi pare del tutto logico. Beh, insomma, è tutto possibile, insomma. Vabbè, approfondiremo. Caro Vittorio, ti lascio Chef Frigerio, buona serata. Comunque, dobbiamo continuare il governo, adesso se tu mi chiami nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni facciamo il governo Sgarbi. Geminello Alvi è sicuro. Geminello Alvi all'istruzione. Toscana agli esteri, ripensiamoci. Abbiamo... Agli interni avevi già detto cosa? Che avevi detto agli interni? Agli interni, ma metterei un generale io all'interno. un generale, un uomo d'ordine. Vabbè, pensiamoci bene. Governo Sgarbi nei prossimi giorni. Grazie Vittorio, buona serata. Vabbè, traffico. Siamo qui nell'ultima parte della Zanzara, ultima puntata dell'anno condotta dal sottoscritto, naturalmente, che rientrerà il 3 di gennaio. Domani c'è il meglio della Zanzara degli ultimi mesi. Domani puntata del 24 della vigilia. Stanislao da Rieti, buonasera. Pronto? Stanislao, buonasera. La sento, Maluccio, ma la sento. Pronto? Sì, dica. Allora, senta, volevo dire due cose, se mi dà la possibilità. Prego. Prima è una critica. Sì. Io seguivo spesso questo programma un po' di tempo fa, poi per questioni di cambio, insomma, di abitudini, ho ricominciato a seguirlo ultimamente. Sì. E devo dire che nella versione in cui lo fate adesso, francamente non mi piace più come prima. Mm. Nel senso che prima si sentì parlare le persone, si ascoltavano le loro opinioni, le loro idee, si commentavano. Ma lei è qui per esprimere la sua opinione, invece sta facendo esattamente il contrario, sta parlando della trasmissione. Lei è qui per dare la sua opinione, esprima la sua opinione su un fatto del giorno, su quello che vuole. Le voglio fare due cose, l'ho detto anche alla sua. Benissimo, questa è la critica. C'è la meno... critica, se me la vuol far fare la critica. Prego. Faccia pure. Le dicevo che prima si ascoltava quello che diceva la gente, si commentava serenamente, ma anche seriamente. E uno si faceva un'idea di come va il mondo. Adesso è diventata una trasmissione di gossip politico, di varietà parlamentare, quello fa le limitazioni, poi si chiama il politico pittoresco, ci facciamo quattro risate, ma che ci abbiamo da ridere? Io ho molto da ridere. Se lei vuole solo piangere, pianga pure, io rido. Vabbè, non faccio questa faccioneria. Ma non è faccioneria, se lei non ha voglia di ridere, mica è colpa mia, Stanislao. Guardi, una volta la gente si ascoltava, adesso è diventato un semplice contorno, per cui si fanno un sacco di chiacchiere in studio, poi ogni tanto si sente qualche ascoltatore così per dare commenti. Tra l'altro lei c'ha anche la buona simpatia di interromperlo e di trattarlo con sufficienza quando non la pensa con lui. Va bene, d'accordo, questa è la critica, benissimo, d'accordo, questa è la critica. Invece andiamo proprio all'oggetto del suo intervento. Per quanto riguarda invece le proteste sull'università e la scuola, sì. io credo che questa storia, che ormai si è diffusa abbastanza viralmente, diciamo, del fatto che il 68 era lì. Scusi Marcello, ma sentiamo veramente male, Stanislao, mi scusi. Marcello da Roma, buonasera, veloce. Buonasera, senta, io volevo intervenire sul discorso che ha fatto Berlusconi oggi in occasione della conferenza stampa. Sì. A me è sembrato un discorso veramente molto, molto importante, sereno, che ha dato serenità. Mm. Non sono d'accordo sulle domande che ha fatto Terese, per esempio. Che vuol dire serenità? Che significa discorso che ha dato serenità? Non capisco. Ha dato serenità perché ha risposto. Ma non è che pagato. I discorsi devono dare serenità. Ha dato contenuto alla risposta da un punto di vista politico. A lei è piaciuto l'intervento di Berlusconi? Ho capito. A me è piaciuto molto. Va bene, d'accordo, grazie. Mario, grazie, sempre da Roma, buonasera. Buonasera Luciani, salve. Dica. Sì, volevo intervenire un attimo sulle parole del presidente Berlusconi che ha detto in questi giorni, il fatto che lui dorme 4 ore a notte, insomma. L'ha detto oggi, non è che l'ha detto in questi giorni, lo dice sempre che lavora tanto, eccetera, però oggi ha detto lavoro 4 ore, dormo 4 ore per notte, faccio una ventina di incontri al giorno e 52 telefonate, questo è lo score di Berlusconi di oggi. Sì, secondo me queste sue parole sono prive di significato e sono, secondo me, cioè se lui vuole far vedere che tutto questo c'è lavoro, che lui svolge, l'ha svolto per gli italiani, secondo me è totalmente falso, perché io in tanti anni che l'ho visto in politica non l'ho visto mai fare le riforme importanti che ci vogliono per il paese. Mm. E poi alla fine penso che lui, secondo me, sta facendo questo perché sta facendo di tutto per far approvare quella legge che praticamente gli permetterà di non andare a fare i processi, perché lui dice che deve andare a lavorare. Che sia un... No, scusi Mario, però abbia pazienza, scusi un attimo, che Berlusconi abbia in mente le vicende processuali, su questo non c'è dubbio. Ora, il legame tra queste sue vicende e l'affermare che dorme 4 ore a notte qual è, scusi? No, infatti lui l'ha detto già di altre volte, che lui lavora tanto, fa un lavoro, incontra tantamente delle persone, insomma. Allora questo io mi aspetto che lui faccia questo lavoro, degli italiani, no? E vabbè, quello è un giudizio suo. Lei, secondo lei Berlusconi governa male? Vabbè, no, punta... non è che governa male, non governa proprio. Non governa, d'accordo, anni... anche questo è un giudizio, insomma, non è che sì. È un suo giudizio personale su Berlusconi, che non ha niente. Quindi a che... penso che sì. Questo suo fatto che sta dicendo forse è un segnale premonitore. Di che cosa? Magari... Mi scusi. Sì, perché guardi, se l'altra volta lei l'ha visto quando dovevano approvare la fiducia, no? Mi è sembrato di guardare un po' quel film, non so se se lo ricordi, il film degli Intoccabili, quando no. Al Capone veniva praticamente processato. Al Capone, siamo arrivati ad Al Capone, no, caro carità, Mario. No, per carità, Cruciani è un paragone così. Paragone, certo. Quando veniva processato, quando aveva già la giuria tutta comprata, si ricorda, se barichiava. Non è proprio così. Comunque, devo chiudere, senta la musichetta, senta la musichetta della chiusura, caro Mario. Però c'è anche tempo per Francesca Carla, velocemente, 10 secondi. Buonasera, dottor Cruciani. Dica, signora, velocemente, molto veloce. Velocemente, ho trovato il nome per il partito di Berlusconi. Mi dica. Allora, il partito turchino? Ah, così, turchino. Perché turchino? Non credo che lo accetterà Berlusconi, grazie. Ci sentiamo domani con il meglio della zanzara e poi il 3 gennaio, ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La zanzara.